Il mio obiettivo è mandare in merda la vostra televisione, poi cercate di fare con gli altri. Lei manda in merda. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivi! Certo, certo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono le 3 di notte, sono a Zurigo che consegno i fiori e ascolto il podcast della Zanzara. Io quando sento Zanzarosi che fa l'annuncio non capisco più niente. Cruciani, mi sa drizzo, è più forte di me, subito. E poi dopo 5 minuti mi ritrovo davanti a Petit Fleur. Lo conosci Cruciani, Petit Fleur? E va che lo conosci. Cosa faccio, mi fermo? Cruciani, mi fermo? Mi fermo, va bene. Poi ti faccio sapere. Ciao. Non conosco questo locale. Non conosco questo locale. È intuibile, no? Davide, è intuibile di cosa si tratta. È intuibile. Sì. Allora, iniziamo così. Massimo Fini dice che i Marò sono assassini. Presi da sindrome americana dell'andocoglio coglio. Massimo Fini sempre controcorrente, Massimone. I due fucilieri di Marina sono con tutta probabilità responsabili di due morti. Sono degli assassini colposi, diciamo, perché è molto difficile sbagliare e scambiare un barchino pirata somalo, che è piccolo, velocissimo, con un barcone di pescatori che va molto più lento, che è molto più grande. Sicuramente si sono fatti cogliere dalla sindrome americana del sparo e chi coio coio. Allora, andiamo con Renzi adesso. Renzi ha spiegato perché secondo lui non è vero che una parte degli italiani dovranno restituire gli 80 euro. Ci sono addirittura di più, secondo lui, quelli che avranno gli 80 euro rispetto a quelli che li dovranno restituire. Ma alla fine non ce ne frega niente di questa roba qui. Ieri è andato da Porro, che chiude Virus. Sì, Virus. Sentiamo qualche battibecco tra i due, Renzi Porro. Io ancora questa storia qua di Renzi Epuratore, cioè Renzi che decide. Non era un battibecco proprio, eh. No, infatti non era un battibecco, però sto dicendo. Non era un battibecco, no. Era. Sto dicendo che la storia di Renzi che chiude i programmi Rai, quelli non graditi, come ci diceva ieri D'Agostino, no? Con il suo portavoce che manda i messaggini, eccetera, eccetera. Io ancora un po' non ci credo, devo dirti la verità. Cioè, non credo che Renzi stia lì a dettare la linea, no, minuto per minuto, quel conduttore sì, quel conduttore no. Mi posso sbagliare, perché ma non è che sono renziano, ripeto, io me ne fotto di Renzi. Però non credo, ecco, non credo che sia lì a cambiare apposta i conduttori non graditi. Cioè, se uno va molto bene, non viene cambiato, no? Cioè, a meno che ci sia una decisione di altro tipo. Adesso io, per carità, con tutto l'affetto che ho per Nicola, ma non credo che, no, che Renzi dica no, io non voglio più Porro. Lei mi sta spiegando che il rapporto è segretato. Ma non mi ha fatto ed è talmente che segretato che a me non l'hanno dato, a Porro sì. Quindi lei non lo conosce, in cui dice che... Ho capito che... perché lei vuole andarsene, fa Presidente del Consiglio, va bene, no? Io voglio andarmene. No, faccio, leggo, giornale, prego, mi dica. Lei vuole fare il conduttore, ho letto poco quello, tempo fa. Quello sempre, però dovrei perdere il referendum e io voglio vincerlo, perché quindi quando finisco, alla fine... Poi c'è la storia dei messaggi, dei messaggi, una roba tra di loro di cui potremmo anche farne a meno, però... Insieme. Senta, siamo l'Italia. Abbiamo poco tempo perché è una giornata lunga ed è anche l'ultima per me qua e anche per lei qua, perché non potrà più venire il Virus. Però sul referendum ne possiamo parlare. Sa che questa credo sia la trasmissione a cui ho partecipato di più. Sì, lo so. Quindi smetterà di dire le cose che ha detto sul mio ruolo su questo. Non è scappato un SMS di troppo. Vada avanti. Il mio o suo? Il suo SMS, visto che lei mi aveva invitato alla trasmissione e la mia risposta era sulla trasmissione. Come lei mi ha sa, detto, non stare sereno. E lei cosa mi aveva scritto? Non stare sereno. No, ma devo stare sereno sulla tua partecipazione alla trasmissione. Le do del lei, Presidente. No, è un po' diverso. Comunque, molti italiani... Lei, siccome si è scusato per l'SMS, ho accettato le scuse prima. Lo faccio volentieri. Gli SMS privati non si rendono pubblici e sono poco elegante farlo. Le voglio chiedere, Presidente, per questo patetico duetto... Vabbè ragazzi, però sti cazzi anche di questa vicenda. Come combatte, porro, sì, però, come combatte. Però anche un po' sti cazzi di questa vicenda, cioè, non lo so, forse, sì, bene, forse c'è anche un po' di perfida ironia di Renzi, secondo una versione, che chiude un talk show e poi va all'ultima puntata di questo talk show, che è una specie di delitto perfetto, no? Una specie... Allora, però c'è una vicenda, anche qui non so quanto interessi, però ne parliamo perché comunque se ne parla. Oggi, in un'intervista, credo a Repubblica, Roberto Benigni ha detto che voterà sì al referendum sulla Costituzione. Sì. Poi si parla del sì al referendum. Si parla del referendum sul sì alla Costituzione oggi. Siamo a giugno, si vota a ottobre, incredibile. È pazzesca questa cosa qua. Comunque, è la madre di tutte le battaglie, questa. Sì, per carità, da cui dipende. Battaglie per il renzismo. Sì, ma anche per il governo. Però, certo, vi rendete conto? Cioè, adesso avrà anche cambiato opinione. Ha detto prima che era incerto, adesso pure. Comunque, dice che voterà per il sì. Lo accusano di essere uno che lecca il culo a Renzi. Ma assurdo, ti rendi conto? Assurdo, no? Assurdo. Cioè, ma adesso a me non follie me ne frega, io non so come voterò. Pure follie. Non lo so, non mi interessa, cioè, probabilmente non mi interessa tanto. Io non ho mai creduto che il voto degli artisti spostasse il consenso. No, a parte mai. Questo, a non parte sì, ma... No, ma questo è il punto. Perché il fronte del no oggi dice: ecco, bisogna ritrovare un Benigni anche noi. Come bisogna trovare un Benigni? Ma cioè, bisogna no, trovare uno ma che, quando, ma, che ma sostenga... Il problema, no, letto, no ma sono quelli oggi, che attaccano. Sono quelli che attaccano Benigni accusandolo di leccaculismo, certo, nei confronti di Renzi. Certo, ma una stupidaggine assoluta. Vabbè, però c'è un'altra roba. C'è un'altra roba di Renzi, altrettanto ridicola, che è quando cita Buffon come tra quelli, portiere della nazionale, come tra quelli che votano sì al referendum. Senti. Oggi hanno votato, hanno 200 professori hanno detto sì alla riforma. Ieri l'ha detto Coldiretti. Qualche giorno fa i professori di diritto, da Gigi Buffon, che è il capitano nazionale, fino... Sì, perché voglio dirlo che questa è una cosa che non riguarda soltanto i costituzionalisti, o voi giornalisti, o noi politici. Beh, riguarda tutti. Riguarda i cittadini. Beh. Allora, sempre a proposito della ragazza di Roma, Facci, non mi sarei fermato, senti, o è ironico oppure io non ho sentito questa roba, sentiamo, non mi sarei fermato, senti, Facci. Di fronte a che cosa? Non sarei scesa. Due che litigano alle 4 del mattino vicino a non so cosa, no, ma figurati, ma figurarsi, che me frega. Come che me ne frega? No, ma no, perché penso che se due si ritrovano nella notte a litigare alle 4 del mattino di notte, qualsiasi cosa che stanno combinando è una cavolata, non vado a pensare, cioè la maggior parte di noi no. Impara la lezione che alla fine era meglio non immischiarsi. Allora, abbiamo già un ospite collegato, però vi voglio fare sentire, ormai tutti sono fissati a fare le trasmissioni sui vegani, sui carnivori, eccetera, eccetera. Abbiamo lanciato noi la moda tempo fa, adesso tutti si accodano a fare la stessa cosa. Vespa sarà la quinta, sesta volta consecutiva che fa vegani contro carnivori, miscelando e cambiando naturalmente gli ospiti. Stavolta c'era una tizia, molto vegetariana, che si chiama Luciana Baroni, che credo sia una pediatra. Senti questa roba qua assurda, il latte... Non può essere data al bambino fino al primo anno di... Cioè, secondo lei non bisogna dare il latte al bambino, perché chi beve più latte ha una mortalità più alta, ti giuro. Luciana Baroni, senti. E cosa beve il bambino? Ma che cazzo ne so, senti. Il latte, lo dice l'Accademia di Pediatria, Americana di Pediatria, non può essere dato al bambino fino all'anno di vita. E questo a prescindere dal tipo di dieta che fa il bambino. Poi... Ci sono degli studi che dimostrano che, per esempio, nel bambino, nell'adolescente, non è il latte che favorisce la mineralizzazione dell'osso, bensì l'esercizio fisico. Giuliano Ferrara con noi in collegamento da Parigi. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Come va? Come stai, ho Giuliano? Qui ho qui una bottiglia di bourbon, scotch, buono, bourbon, da dare ai bambini, subito, appena nati. Appena nati col biberon, esatto. Uno li riempie di bourbon. Che poi latte e whisky, latte e whisky è una roba buona. Straordinario. Certo, sono benissimo all'influenza. Scusa un attimo, ma sei anche tu invaso dalla pioggia? Là hanno chiuso il Louvre, che è successo? No, invaso dalla pioggia, c'è la Senna che minaccia di esondare. No, scherzo. Ho una mia vicina di casa mi ha detto, ma signor Ferrara non si preoccupi perché 62 ore prima danno l'avviso e noi mettiamo tutto al riparo nelle nostre cantine. È tutto organizzato lì, non può succedere nulla. Dicono, poi non so. Magari poi succede un casino tremendo. Appunto. Senti, ma torni a Roma per votare o no? Non ho capito. Sì, certo. E chi voti? Sono alle 12. Giachetti. Ah, Giachetti. Voti, signor Giachetti. Vabbè. Simpatico, un vecchio radicale, così uno si è affidabile. Fatto vedere in giro con l'abbonino, ma lo perdono. In che senso, scusa? No, lo perdono. Dico, lo perdoni dal suo boninismo, dici? Cioè. In un senso solo. Sì. Ma scusa un attimo, ma così non ho molte aspettative, non so voi. Le elezioni municipali in Italia in questo momento mi sembrano più un gran teatro, anzi un circo. No, quello però, sicuro. Ma la Raggi, se vince, è un disastro? Oppure tutto resta com'è? Cioè, no, va benissimo. Se vince, niente, è una pantomima. Siamo nel ridicolo più assoluto, ma non credo proprio che vinca. Beh, non va neanche in ballottaggio. Addirittura, no, ma sì. Tu no, dici che parla? Ma la perché dovrebbe? Ma chi parla? Ma, ma siete morti? Appunto, ma chi è? Ma chi, perché ma dovrebbe? Chi è? La rete, ma... La rete, sì. La rete, il comune di Roma va governato con un computer, porca puttana, è evidente, dai. Ecco, appunto, un'impiegata di una società privata non dovrebbe poter fare il sindaco di Roma, perché lì la questione è il bene comune della città, non della Casaleggio e associati. Ma perché quella è impiegata di Casaleggio, scusa, non ho capito. Beh, tutti i grillini lo etero diretta. Ah, tu dici etero diretta da Casaleggio, sì. Dici. Vabbè, ma comunque non credo che Roma sprofonderà nel nulla anche se dovesse vincere la Raggi. No, ma Roma non gliene frega niente del sindaco, così si va, si vota, ecco. Sì, ma l'aereo a mezzogiorno, ma insomma non è una cosa così importante. A Roma c'è il Papa, c'è il Presidente del Consiglio. Sì, esatto. Il Presidente della Repubblica, scherziamo. Come ha detto Fiorello qui, forse se sta meglio pure senza sindaco, da un certo punto di vista. Certo. No? Le buche tanto non le mette a posto nessuno, no, è impossibile, bisognerebbe licenziare 10.000 persone, capito, fare delle cose. Però tu sei sempre sempre molto ottimista in generale, ma adesso c'è una cosa quasi cupa, un velo di cupezza. No, pessimismo. Sono molto ottimista, solo che non mi applico. Non applico l'ottimismo alle cose che non lo sostengono, diciamo, che non lo consentono. Senti, la storia invece, poi andiamo su Benigni, la storia di Renzi è Puratore che prende tutto alla RAI, no? Cioè di Renzi che comanda tutto, che caccia i talk show, che chiude questo, che chiude quest'altro, che è la rappresentazione un po' del Fatto Quotidiano, non solo del Fatto Quotidiano, in genere, di chi dice, insomma, questo Renzi alla fine no, vuole tutto e occupa tutti gli spazi possibili e immaginabili. Io immagino che tu non ci credi a questa robaccia. No? Ma insomma la storia di Renzi dittatore fa un po' ridere, perché uno scout dittatore lo dobbiamo ancora vedere come fa uno scout a diventare dittatore, o è scout o è dittatore. E poi detto questo, sai, Renzi mi sembra uno molto abile. Che cosa ha fatto? Ha deciso che la RAI, per via di ruffianesimo, si sarebbe comunque messa dalla parte di un governo che comunicava molto, annunciava molto e faceva anche parecchie cose, e che era, come dire, senza alternative. E quindi non c'era bisogno di occupare tutti gli spazi. È stato prudente, è andato coi piedi di piombo, hanno nominato questo amico suo, che è un bravo, diciamo, dirigente televisivo, Antonio Campodell'Orto, e adesso piano piano fanno delle altre cose, per esempio impediscono a Mirta Merlino di andare lì col tacco 12, ecco, questo lo capisco. No, questo è quella è la 7, la Bignardi dice che le conduttrici di Rai 3, insomma, le Mirte Merlino della Rai non possono, devono andare con le scarpe basse come delle giovani intellettuali. Questa è una cazzata, dai. Sul lago. Cioè, questa è cazzata, non lo so, comunque è una cosa che mi sono fatto vestite ridere, sobrie. Sì. Vabbè, ragazzi. Sobrio. Traffico, con l'Oden. Sì. Secondo me devono fare le annunciatrici con l'Oden. Sì. L'Oden dell'era Monti, sai, il cappotto l'Oden, devono andare con un bel l'Oden. È passato, però è passato quel periodo. Un attimo solo, fermo che c'è il traffico. Crucià. Ma il traffico durante la zanzara dovrebbe diventare un reato penalmente perseguibile. La zanzara. insultar Parenzo, comincia tu. Allora, intanto Salvini dice che la Conferenza Episcopale Italiana è complice, Parenzo, complice degli scafisti. Vabbè, perché Salvini, perché Trump manco lo vuole. Trump dice, ma dico, non manco conoscerlo, figurati, non lo vuole Salvini, nessuno. Salvini complice nessuno, degli scafisti. Nessuno. La CEI chiede di accettare tutti i migranti, accoglierli tutti. Chi parla così è complice degli scafisti. Chi parla così è complice degli scafisti, è nemico degli italiani e dei rifugiati veri. Perché se dici avanti tutti, accogliamo tutti, fai il male dei rifugiati e degli italiani. Allora, ma Giuliano, tu che conosci l'America, un po' i candidati, eccetera, come si muovono, di solito non gliene fotte assolutamente nulla di quello che accade in Italia, dei leader politici italiani, ma questa storia qui incredibile di Trump, Salvini va da Trump, si incontra, annuncia che incontra Trump, fanno una foto, dopodiché dopo 15 giorni spunta Trump che dice no, veramente io non ho incontrato, assolutamente non ho incontrato Salvini, Salvini risponde dicendo ci sono delle mail, per queste mail però non le possiamo rivelare, ma che è successo? Beh, se Salvini fosse un tipo spiritoso come Woody Allen si potrebbe dire che ha fatto una cosa alla Zelig, cioè ha fatto una specie di beffa tutta da interpretare sul piano della psicanalisi, è andato lì e ha fatto finta di... si è messo vicino al Papa, d'altra parte c'è un medico, se non ricordo male, che si è messo vicino al Papa, si è fatto fotografare e poi ha fatto il Photoshop, cioè, che sembrava che ricevesse lui il Papa. Vabbè, ma è una cosa goffa, appena ho visto la foto con... Sì. Il grande capo di tutta la destra zozza mondiale con la sua mesh arancione e il giovane Salvini, apprendista, insomma, che è ancora un bravo milanese, un bravo brianzolo, un bravo italiano, eccetera, messo lì vicino che faceva finta di essere Trump, mi sono messo a ridere, naturalmente. Beh, okay, è chiaro che era di una cosa di cui Trump era inconsapevole, Trump, dici? Ma sì, assolutamente, quello che gliene freghi a Trump e di Salvini, no? Non esiste proprio. Cioè non esiste Salvini... che organizza un incontro, cioè che dice ma di no, sì. Ma no, esiste che Salvini ha trovato uno che si chiama Tom Marino, un deputato lì del congresso, e gli ha detto ti organizzo un incontro con Trump, siccome si chiama Marino, dico Marino, siamo alla vigilia delle elezioni municipali di Roma, gli ha organizzato quel bel incontro con Trump, cioè non hanno informato Trump, lui è andato lì col cartellino Make America Great Again, si è messo lì con la sua barbetta e Trump ha fatto un sorriso di circostanza e è venuta fuori la foto. Sì, questo è plausibile. Sono cose da circo e queste. È possibile che sia successo. Poi cioè è probabile che a Trump gliel'abbiano detto, Trump ha googolato il nome di Salvini, no cazzo, ma chi è questo qui? Ha visto? E ha detto, no, porca puttana, non è possibile che io non posso fare una foto con uno così. Però Parenzo non può dire queste cose perché Parenzo è pieno di pregiudizi verso Salvini. Sì, troppo. Tu invece che sei ammiratore, infatti tu sei un tuo grande ammiratore, lo puoi dire. Io sono in conflitto di interessi. Senti, da quanto tempo è che non senti Berlusconi? Un sacco di tempo, immagino. Da un po' di tempo, no, l'ho sentito, ero a New York, mi ha fatto una telefonata molto graziosa, simpatica, avevo scritto un articolo che gli sembrava carino nei suoi confronti. Ma che sta facendo? Che vuole niente? Che sta facendo? Ho visto che non si sposa, non si sposa. Ho visto che così... Ma venderà tutto? Venderà tutto, secondo te? Sì, venderà tutto alla fine. Ma venderà tutto? Tutto non lo so, Milan pare che lo venda. In Milan tutto, cioè Mediaset tutto, vende tutto. Ah, tu dici che vende pure la televisione? Ma eccetera. Sì, alla fine è chiaro che siamo alla svendita. Cioè, la svendita magari no. Cioè, ma vuole dismettere. La svendita. Guarda che Berlusconi qualche volta è stato disattento, sebbene abbia fatto una grande carriera politica e rimarrà nei libri di storia. Ma sul denaro non è mai stato disattento. No, ma infatti, svendita nel senso che vuole vendere tutte queste cose qui, la televisione, cose che gli creano solo in questo momento. Cioè, no. O no, ma non ci credi. Però, no. Non lo so, veramente no. Senti, ma invece il referendum, no? Benigni, che non è un altro che tu ammiri, ha detto che voterà sì al referendum. Un po' ci ha ripensato, l'hanno attaccato molto oggi perché dici sei un lecchino di Renzi, eccetera, eccetera. Signor Benigni, cosa ti ispira, signor Benigni? Ma insomma, lui ha detto una cosa che va censurata. Ha detto con il cuore voterei no, con la testa voterò sì. Che è un modo ruffiano di farsi ben volere da tutti, perché lui ha la sindrome dell'artista e non vuole dividere il suo caro e amato pubblico. È vero. E vabbè, ho capito, ma allora non si occupi dei fatti della Repubblica, non si occupi dei fatti politici, insomma, perché dire con il cuore, allora con i piedi come vota, col bischero come vota, con la topa come vota, per parlare come lui. Sì, cioè, o come noi. Dire, uno non può parlare con diversi organi del corpo, linguaggi diversi, alla fine esiste la persona che è un insieme. Che dice insieme voto di sì cose. O voto no, punto e basta. Certo, sì, immagino che tu voterai sì. Però senza detto questo sono contento perché insomma io voto sì e quindi sono contento che abbiano sottratto. Sì, poi ci sono troppe discussioni intorno a come al solito, al voto degli artisti, al voto dei VIP, delle persone conosciute, se contasse ancora qualcosa, come per esempio la discussione intorno alla parola femminicidio, che mi fanno andare i matti a me. Cioè, quando io sento... Quella è terribile. Se io sento una parola femminicidio, vado ai matti. Parenzo invece sostiene che bisogna addirittura punire di più le persone che uccidono le donne. Cioè... Vabbè, ma adesso lì la questione... Che ci sia un elemento atroce nella violenza di un maschio contro una femmina. Ah, ma quello da sempre, no? Nemmeno con un fiore. Poi, insomma, le donne devono essere esposte al meglio di ciò che i maschi possono produrre, che è uno spirito di protezione, di amore, di affetto. Quindi è ovvio, c'è la maternità offesa. Sì, ma d'accordo, però non c'è il futuro dell'umanità messo in questione. Però non è vero che c'è il femminicidio, c'è anche il maschicidio, c'è tutto. Insomma, sono quelle cose che ribollono nel grande calderone del nonsenso. Senti, un'ultima cosa, ma Saviano, secondo te merita la scorta? Perché c'è stato grande casino sulla... Ma secondo me sì, io sono sempre per dare le scorte a chiunque sia anche lontanamente, diciamo, oggetto di minaccia, di pericolo. Perché per no, precauzione. È giusto. Ce l'hai avuta pure te la scorta. Per precauzione. Quello che non merita è di essere considerato, perché non lo è, un grande scrittore capace di esprimere un'idea su tutto quello che succede nel mondo, perché invece di queste cose qui lui non sa assolutamente niente. Ha fatto un romanzo, la Cassazione, ma io non considero la Cassazione un critico letterario, e nemmeno la Boccassini ha detto che era un romanzo copiato in 3 capitoli da dei bravi cronisti. Cioè di Camorra non sa niente, secondo te? No, insomma, così sembra un episodio, anche quello, appunto il calderone, il ribollire, perché insomma Saviano è nulla. È un nulla che va scortato. Io sono per la scorta. Ah, un nulla che va scortato. Un nulla, sì, un nulla che va scortato. Beh, ho capito, però è una contraddizione, sembra quasi una contraddizione. Cioè... No, perché sai, è un nulla, però i suoi amici che hanno costruito la sua figura, perché lui è tutta una costruzione. Cioè, lo hanno messo quasi in pericolo. No, Saviano è stato costruito dalle televisioni e dalla Repubblica, soprattutto perché volevano trovare... Un giovanotto sexy che potesse fare il candidato presidente del Consiglio. E hanno pensato di averlo trovato in questo ragazzotto che, insomma, naturalmente era perfetto per essere teleguidato. Sì. Gli è capitato l'incidente dello scout e quindi niente, Saviano ha dovuto continuare a fare lezioni. L'incidente dello scout? Che è l'incidente dello scout? Renzi. Saviano è il nulla laddove Renzi invece pretende di essere il tutto, come sappiamo. Va bene, Giuliano, ciao, abbracci, ciao, presto, ciao. Siete goduria. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Vivacissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it vi presenta La Zanzara. Sento che c'è gente che ti chiama dall'Africa, dalla Thailandia, da Parigi, da Londra, che li sente dalla spiaggia, dall'aereo. Cruciani, ti va bene se io ti ascolto dal cesso di casa mia? Parenzo, quei quattro stronzi che chiamano, come li definisci tu, sono quelli che te fanno magnà. In quanto stronzo, te tiro lo sciacquone. sì, questa qua però è un'imitazione tardiva di quello che Parenzo faceva anni fa, anni fa Parenzo ogni tanto tirava lo sciacquone del bagno, dove era, a Siena, non mi ricordo dove, eccetera, eccetera. Nei treni, anche sui treni. Anche sui treni succedeva, anche sui treni, tempo, diciamo, come dire, un periodo epico della Zanzara, così potremmo soprannominarlo. Sì. Poi le cose sono cambiate. Periodo Corsaro, ecco, meglio, periodo Corsaro. Ragazzi, non c'è bisogno di imitare le cose. Questi, confermo, sono quattro stronzi. Ma che quattro stronzi? È gente normale, dai. La ghechina del bagno. Siamo andati in alto con Ferrara e dopo siamo andati in basso con lo sciacquone, dai, è normale, una roba da Zanzara. No, ma quello è altissimo, me l'hanno rubato, è una ghighina che è stata depositata in SIAE e quindi devono pagare. Ma scusa, il karma quotidiano, lo vogliamo sentire il karma quotidiano o no? Cioè il karma quotidiano, Carmine da Milano, lo vogliamo sentire da Roma, anzi, lo vogliamo sentire o no? Non è necessario. L'editorialista. Come non è necessario? Come no? No, assolutamente. Ci sono una serie di piccoli editoriali, il karma quotidiano. E comunque di questa Italia finta non se ne può più, sono tutti moralisti, perbenisti. Oh, nessuno va a Mignotte, no, io non ci vado, no, che schifo, che vergogna. Ah, mi spieghi com'è che sono sempre pieni i night e bordelli, in Austria è pieno, e meno male che non ci va nessuno. Vergognatevi, dite la verità, dite che andate a Mignotte, non c'è niente male. Questo era l'editoriale numero uno, il karma quotidiano numero uno. Adesso c'è il karma quotidiano numero due. Senti questo. Giuseppe, ma dove la posso comprare una statua piccola del Duce? No, perché... ma che costa poco però, Perché me la volevo mettere nella camera da letto. Così tutte le mattine mi sveglio, lo guardo, lui con quella posa, qua destra all'indietro, che già ti dà sicurezza, lo guardo e dico ai, noi, e almeno mi carico di mattina, vado a lavorare con due palle così. Poi se la prende addirittura con Alfano, terzo editoriale oggi, tre editoriali, il karma quotidiano, numero tre. Non starai inflazionando il tuo editorialista? Può essere. Un po'. È come se Galli della Loggia scrivesse tre articoli sul Corriere della Sera, no? Mi sembra un po' troppo. Sì, ma è un crescendo, no? Vabbè, questo, comunque. è un crescendo. È un climax. Un crescendo. Cosa potrà dire di più questo idiota? No, cosa potrà dire di più questo idiota? No. Questo miserabile idiota. Non offendere il karma. Cosa potrà dire di più? È il karma quotidiano, numero tre, dai. Cioè, vediamo. Amici miei, Alfano ha detto... centri di identificazione in mare, identifichiamo tutti questi profughi, tutti questi stranieri che arrivano con le barche in mare. Johnny il Castoro, Alfano, l'uomo con la faccia da castoro che comanda tutta la polizia. Alfano, siamo nella merda, siamo rovinati. Carmine, il karma quotidiano numero 3 è andato. Allora andiamo a Roma, Giuseppe, vai Giuseppe, primo intervento della serata, vai Giuseppe. Sì. Dimmi. Senti, volevo chiedere una cosa, c'è una grande curiosità. Sì. Il signor Parenzo, sì, che è un attore, sì, o è proprio lui così? In che senso? No, è così. Ci è o è ci fa così. La solita domanda, insomma, Giuseppe. Sì. No, è così, sì, è fatto così. Sì. Ah, niente, era solo questo. Siccome io due volte ascolto la Zanzara di notte quando c'è la replica, sì, che allora lavoro dentro uno studio, sì, allora volevo sapere... perché c'è avuto sempre questo lavora tipo di questo interrogativo ti sei posto, no? Questo interrogativo. Sì. Allora, sì. Non è, sì, sulla questione del programma, mi va tutto bene. Il programma di chi? Il programma di chi? Sono vecchietto, quindi accetto tutto. Ah, il programma di Zanzara. Io ti ringrazio. Vabbè, ma che telefonata è? Cioè, vuoi sapere c'è se, niente, se di dice folle, se è un comico oppure dice le cose, cioè pensa le cose che dice? Vabbè, Giuseppe, ciao. Isabella da Roma, dai, forse mi sono rotto le balle, dai. Isabella, vai. Isabella, vai, dimmi. Buonasera, io volevo agganciarmi sempre al discorso della alla vicenda della ragazza. Sì, sì. Che vuoi dire? Che vuoi dire? Stamattina ho visto il ragazzo in televisione, il testimone, effettivamente sì. non si può dare proprio colpa a un ragazzo così, insomma. Solo che l'indifferenza c'è, non parlo in questo caso. No, ma Isabella, stiamo parlando di questo caso qua. Che ci sia indifferenza qualche volta, non c'è dubbio. Nessuno ha dato colpa a Edoardo. Tu per primo, e poi hai ritrattato. E poi hai ritrattato quando l'hai sentito. E poi hai ritrattato. Io ho detto che avendo letto sui giornali le ricostruzioni del caso. Ma tu ti fidi di quello che leggi dai giornali? E avendo sentito le giuste considerazioni del PM che indaga sull'inchiesta. No, sbagliatissime. È evidente che spesso in Italia c'è un girarsi dall'altra parte. Ma quando mai? Ma non è vero. Ma non è vero. Non è vero che in Italia spesso la gente si gira dall'altra parte. Questa è veramente una puttanata. Tant'è che non si trovano i testimoni anche per cose molto banali. Perché la gente ha paura di finire nei casini e di perdere tempo. E quindi questa è una ragione. Io ripeto, a parte che c'è il diritto a farsi i cazzi propri, non è vero che la gente si volta sempre dall'altra parte. Non è, questa è una rappresentazione teatrale. È la filosofia di Razzi, infatti, ormai, che è passata in questo paese. Ma non dire ormai stronzate, mamma mia, è tutte luoghi comuni, luoghi comuni. Te lo dico da amico, ormai è diventato mainstream luoghi comuni, nazionale. Luoghi infatti, comuni, sì, luoghi comuni. Comuni, Alessio, bravo. Da Torino, dai, comuni, Alessio, bravo. Da Torino. Alessio, sentiamo Alessio, va. Dimmi. Alessio. Questa volta parere devo dare proprio ragione a Parenzo. Sì, dai ragione a Parenzo. Perché, se ne prende. Sì, perché anch'io la prossima volta mi girerò dall'altra parte. Perché? Perché che è successo? Dopo quello che ho... sento questo ritorno. Ma io non mai sento niente, sento benissimo. Continua Alessio, tranquillamente, continua. Sì. No, voglio dire che... Ma che ti è successo? Spiegami. La polizia, mai più, dopo l'esperienza che io ho che avuto è successo, qualche dimmi anno fa, è successo che ho visto due ragazzini che portavano via un motorino e ho chiamato la polizia alla cabina telefonica perché non esistevano ancora i cellulari e quando sono venuti... Vabbè dai, vai veloce, forza, Alessio, dunque che è successo? Qual è il punto? Il punto è che poi dopo è come se io le avessi denunciati, perché è andato a finire che ci hanno portato tutti in caserma e poi mi sono trovato che dovevo essere a un processo come se l'avessi... come se l'avessi... Ma no, ma non è così. È un testimone, è un testimone. È un testimone, per forza, certo, finisci in mezzo a processi, testimonianze, udienze che devi fare, la gente viene chiamata e quindi si deve assentare dal lavoro perché in quanto testimone è obbligato ad andare in tribunale. Insomma, molte persone, per non avere rotture di balle, preferiscono voltarsi dall'altra parte. Questo ti sta dicendo. È così Angelo Milano, no, vai, essere, Angelo. È così. Angelo. Sì, pronto. Dimmi. Buonasera. Senti, io volevo ricollegare al discorso su Saviano della scorta. Sì. Cioè, secondo me è una cazzata che parlare di merito della scorta. Secondo me la scorta Saviano la sta subendo. Vabbè, è un discorso vecchio questo qua, dai. È tutto partito dalla dichiarazione di Danna, anche qui alla Zanzara, in cui ha detto sostanzialmente che secondo lui la scorta non va data perché c'è una sentenza che dice che mancano i presupposti della scorta. Deciderà il ministro degli interni, la prefettura, quello che è, dai. Però Danna ha parlato anche di antimafia, secondo me, prima di tutto. Vabbè, quelle sono delle considerazioni che lui fa sul ruolo di Saviano nella società oggi e che è legittimo fare. Ognuno ha un'idea di Saviano e va benissimo. Sulla scorta decideranno, come dire, le autorità competenti. Io non parlo mai della scorta a Saviano, non me ne può fregare di meno. A me, sinceramente, quello dice Saviano mi entra da una parte e mi esce dall'altra perché non mi è totalmente indifferente. Ma sulla scorta va bene, chi se ne frega. Secondo me Saviano non fa antimafia. Semplicemente è un divulgatore. Ma chi se ne frega se sia divulgatore, se faccia antimafia, non mi interessa. Sicuramente è diventato una specie di guru di un come diceva Ferrara, non solo sulla questione della Camorra, va bene, fa il suo mestiere, le sue cose, se ne frega. Melchiorre, Trapani. Melchiorre, Melchiorre. Pronto? Sì, dimmi, che succede oggi, ragazzi? È il 2 giugno, è festa, sveglia, su, sveglia. Luciani? Sì. Sì, sono Melchiorre da Trapani, sono un non vedente. Ah, ok, senti, dimmi. Siccome l'altra volta ho telefonato più volte e finalmente mi avete chiamato. Dimmi, Melchiorre. Io c'ho un busto. Sì, un busto. Che rappresenta di Hitler incazzato, sai, con due scaglioni che ci escono di fuori. Un dio demone, no. Con due paia di corna originale dalla Spagna. L'ha fatto mio zio, questo... 70 anni fa, e me l'ha data a me prima di poi, dice questo prendetelo tu. Ma questo se che cos'è? Non ho capito. È un dio demone quando Hitler è incazzato. Non ho capito, ma c'è raffigurato Hitler in sì, questo? Sì, se poi te le mando in foto poi via Facebook. Vabbè, ma perché mi dici che c'hai sto busto? Quanto è grande questo qua? È grande 50 centimetri. E che vuoi? E le corna che sono cos'è? C'è questo americano che se lo vuole comprare. Le corna gli stanno bene. Ma lo vuoi vendere tu? Sì, dato vuoi... che tu l'altra volta ma amico mio, ma tu vuoi fare un po' di soldi con sto dio demone, con questo certo, ai miei figli, ecco, un dio demone, ma se lo vede che è uno spettacolare, nessuno lo sa fare, questo è tutto intagliato in legno massiccio. Vabbè, Melchiorre, adesso amico mio, ti aiuterò, mandami una mail la zanzara@radio24.it oppure ti richiamiamo, dammi tutte le coordinate di questo dio demone italiano che vuoi vendere, cioè ci trasformeremo in crisis in qualche asta eccetera per venderti sto Hitler come dio demone di 50 centimetri. D'accordo? Due pupazzi, ditelo che siete due pupazzi, mamma mia. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Uno è un lecchino servo del potere, l'altro un razzista fascistello. Che radio di merda, però non ne posso fare a meno. Abbiamo fatto l'amore al primo appuntamento, la rivelazione hot della senatrice Pezzopane. Anzi no, sulla senatrice Pezzopane. Sai che la Pezzopane sta con il signor Coccia con l'aiuta, no? Tronista, ex sì, tronista. Un tronista diciamo. Era, ma non è un tronista, dai, perché hai questo ma pregiudizio? Per qualificare, non lo so, non è un pregiudizio. Se avesse fatto il notaio avrei detto notaio, se avesse fatto il migrante avrei detto migrante, allora, se avesse fatto lo stronzo avrei detto stronzo, ho detto che tronista, che per, allora, per mi sono capirsi, avvicinato no? Per farle i complimenti per il suo lavoro, poi ci siamo scambiati il numero di telefono e dopo due o tre settimane l'ho invitata a fare un aperitivo, dice il Coccia con l'aiuta, 32 anni. Dopo un'altra settimana l'ho invitata a cena a casa e lì ci siamo amati. Lì ci siamo è amati. Fondamentale questa cosa. Aspetta. Cioè avete fatto l'amore subito la prima sera? Sì, la sera della cena. Lei si è sciolta come un ghiacciolo. Cioè la sostanza è questa: non hanno scopato al primo appuntamento, sostiene il Coccia con l'aiuta, ma bensì al secondo appuntamento. Cioè il Coccia con l'aiuta ha dovuto impiegare due appuntamenti per scoparsi la signora Pezzopane. Credo, mi pare normale questo, abbastanza. Beh, adesso tu mi vuoi dire anche che quante volte ti è capitato? Quante volte ti è capitato di non scoparti uno al primo appuntamento? Diciamo la verità. Ormai sono per il corteggiamento. Tu sei per il lungo corteggiamento. Per il lungo corteggiamento, inviti a cena, regali. Immagino che con Natania sia passato un mese. Con Natania sarà passato un mese prima della prima volta. Adesso, prima come lei della sa, prima volta. Come lei, non entro mai nel merito dello specifico di cose. No, ma non casi, ti sto chiedendo. Qualità d'accordo. Più cogente. No, ma più ti cogente. Sto chiedendo una cosa molto semplice. Quanto è passato dal primo appuntamento fino alla prima volta che avete fatto all'amore? No, ma è una domanda. Ti ho detto. Non ma non è una domanda. A domande vabbè, che d'accordo. Non riguardano la partita. Altre domande. Ho detto che è normale che il signor Coccia, tal signor Coccia, con protagonista della puntata di oggi, perché si è fidanzato con secondi. Questa Pezzopane. No, ma non è una pomposità. Nel giorno del 2 giugno, del giorno della allora... la Repubblica, si parla di Coccia. Ecco, trovo normale che dopo due settimane ci sia stato questo rapporto. Ecco. Prima si coccola, ci si conosce, ci si no, non è così. Vabbè, insomma, sono strano io, dai, non importa. Lores Vicenza, Lores Vicenza, ecco. Vai, vai, Lores, vai. Questa vai, è la secessionista, è la secessionista questa qua. Hanno chiesto a Cucia quanti soldi ha preso. Perché soldi presi falla parlare un attimo, non ho capito quanti soldi ha presi da che cosa? Per farsi scopare, per scoparsi la pezzo pane. Ma perché uno deve prendere soldi per scoparsi la pezzo pane? Allora, l'eleganza di questa signora, l'eleganza di questa imbecille. Volevo dire un'altra cosa. Dimmi Lore, sì, dimmi. Volevo dire un'altra cosa. No, è vero, è successo anche a me quella di andare a denunciare una denuncia. Di fare una denuncia perché mi sono trovata le zingare dentro e poi quelle due vacone sono venute a prendere i genitori dal campo vicino e io sono dovuta stare l'altra 3 ore per fare la denuncia. Vabbè, quella era una denuncia, la che prossima c'entra? la prossima volta sai cosa faccio, le metto dentro un sacchetto di immondizia così non devo più perdere tempo. Cioè le ammazzi, non ho capito, direttamente. Allora, le persone chiudo un sacchetto e basta. Allora dove volevo dire, no? Ma è possibile che oggi tre quarti dei coglioni italiani siano andati in giro e abbiano esposto il tridolore? Il tridolore, i tre quarti, tridolore. A parte che non è pieno di tricolori in giro per la festa della questa Repubblica. Questa è la Repubblica italiana, signora. Ma perché tu, scusa, dove ti trovi italiana? Tu, Lores? Mi sembra che ti trovi in Italia, cioè di due, tre... No, io sono in Veneto, non in Italia. Il Veneto fa parte dell'Italia. Ma va là, Pandolo. Invasa del cervello. Invasa nel cervello. Vabbè, troppa, ma oggi per te che giorno è? Scusa, non ho capito. Da quello è invasa lei, dall'etame. Dai, che giorno è per te? Non ho capito. Ma perché non spegnete quella zecca? Va bene, d'accordo, ma per te che giorno è questo? È un giorno come un altro, perché per me non ha nessun significato, è solo vomitevole perché hanno fermato il lavoro, perché hanno sprecato un sacco di soldi. Cioè hai vomitato in pratica oggi, hai vomitato? Sì, vomitato. Hai vomitato tutto il giorno per la festa della Repubblica? Sì, vomitato per la Repubblica mafiosa, La Repubblica mafiosa, la Repubblica italiana, il 2 giugno, dai, è una festa qualsiasi. Per me andrebbe abolite, molte feste, tra cui il 2 giugno. Ma no, ma oggi si sono suicidati altri due imprenditori. No, beh, questo che hanno festeggiato adesso. I mafiosi là sul palco. Ma che mafiosi? Adesso non esageriamo, non ci procurare altri guai. Tutti, abbiamo già un sacco di guai noi, adesso i mafiosi, quelli che erano su... tutti. C'era Renzi, c'era il Renzi. Mummia. Non è che... C'era la Cocodè. Chi era la Cocodè? Scusa. Beh, mi sembra che si chiami Boldrini, mi sembra. Vabbè, no? Ragazzi, ma qui però allora noi abbiamo già un sacco di guai. La cosa inquietante di sta signora è la voce, perché dice delle cose terribili. Sì. Con la mummia è Mattarella, la banalità, mi sembra, no? Del male. Mafioso è cosa? Il mafioso è Renzi. Uno non può anche l'ebete fiorentino. Sì, anche l'ebete fiorentino. No? Lores, ma io non ho capito, tu dove abiti? Lores. Cioè, in quale paese abiti? No, paese, nel senso, non è l'Italia. In cioè Italia? La Repubblica. Dov'è? Dove ti trovi? Io abito in Veneto. Ma il Veneto è una regione? No, il Veneto è uno stato, Ciccio Bello. Sì, è uno stato, stato lo dici tu da sola, lo dici. No, non lo dico io. Vabbè, d'accordo, ma lo dici tu, dai. Senti, c'è una zecca che infastidisce. Ma prendete il DDT, no? È una nazione. È il tuo stato mentale che da verificare tutto. Il tuo stato mentale, capito? Che ormai è tutto completamente annacquato, pieno di letame. E anche quell'unico neurone che c'era è stato completamente sommerso ormai. Il Veneto è in Italia. Italia, no, Repubblica è l'Italia italiana. Che è in Veneto, zecca stupida. È l'Italia che è in Veneto. Beh, l'Italia, no? È in Veneto. Non ho capito, i carabinieri per te cosa sono? I carabinieri? Niente, non li riconosco come autorità italiota. E la polizia? Anche, assolutamente. Non riconosco nessuna autorità italiota. Scusa, la carta d'identità. Io ho il passaporto. No. Prendi la carta d'identità, Lores, prendi la carta d'identità. Ecco, vuoi che ti dica una cosa? Dimmi. Tu leggi un documento di qualsiasi persona negli altri stati e c'è scritto nazionalità tedesca, nazionalità francese, nazionalità belga. Tu sulle nostre documenti italiani ci vedi scritto cittadinanza, ma ti fai un pensiero. Vabbè, adesso al di là di questo, prendi la tua carta d'identità un attimo, prendi un tuo documento. No, non ce l'ho, il passaporto veneto. Ma il passaporto veneto non esiste, non esiste. Ce l'ho. Ma vero, te lo sei fatto da sola come Totò e Peppino che facevano così, come no? Cioè, no. Me l'hanno fatto chi di competenza? Cioè Napoli, dov'è per te? Napoli, cos'è per te Napoli? In Italia. Napoli in Italia. E che, come, che ne pensi di Napoli, per esempio? Non me ne frega niente. Non te, vabbè, che vuol dire non te ne frega niente? Avrai un no, pensiero? Non mi interessano, cioè a me dell'Italia non mi interessa. Sei mai andata niente. A Napoli? Sei mai andata? No, non sono mai andata a Napoli. Non sei mai andata, non hai voglia ma di no, andare no, a Napoli? Perché, no, no, no, no, mi piacerebbe vederla, prima o dopo ci andrò, ma non, ma questo non c'entra niente con i napoletani, non c'entra proprio niente, è proprio lo Stato italiano che è una schifezza. Lo Stato non italiano, c'entra niente, non c'entra niente con i siciliani, con i sardi, con, non c'entra niente. Sì, ma prendimi un attimo sto passaporto, prendimi sto passaporto, Loris. Stato. Lo Stato, sai cosa significa? Cosa significa? Lo Stato è a Roma, no? Sì, e beh, è quello lo Stato. No, è solo a Roma, lo Stato è una concezione diversa, una concezione più ampia, lo Stato, cioè. Però voglio capire, prendimi sto passaporto un attimo, così mi leggi sì, un attimo. Prendimi sto passaporto. Loris da Vicenza prende il passaporto veneto, che non esiste naturalmente. Signora, no, Loris. Però, sì, ma cioè, te lo sei stampato da solo, chi te l'ha fatto? Come i soldi del Monopoli, vale, uguale. Vabbè, che c'è scritto sopra? Non ho capito, spiegami. Senti. Che c'è scritto? Scritto che è una demente, dai. Finché non, ci, non avrete eliminato con il DDT la zecca che avete... Vabbè, lascia perdere la zecca che è qua, che non è, non è né zecca né niente. Dai. Allora, c'è scritto. Repubblica Veneta, passaporto. Sì, beh, d'accordo. Come quello poi, del Monopoli, dai. Poi? Monopoli, Monopoli, uguale. Sì, ma poi quante pagine Viale sono? Vittorie, che c'è la tua foto? No, no, no, no, è come la, la patente, come la carta d'identità italiana, è uguale, non sono pagine. Sì, cioè, quelle che vende Vanna Marchi è uguale, certo. C'è anche del sale ma che in mezzo, deficiente lì, dai un calcio sulla bocca. Che... Adesso vendiamo ecco un passaporto ecco del Veneto. Guarda, a fare lo stronzo, a fare lo stronzo ci riesci da Dio. Comunque mi sta dicendo mio amico Bagatta che Loris. Tu lo sai che si sente evidentemente grande con le cuffiette sino a 3000 metri sino a 3000 metri di quota perché è in aereo è decollato da 5 minuti si sente fino a 3000 metri di quota. A Barcellona sono cazzi suoi dove va. A Barcellona. Ciao, ciao. Ciao, bravo, ciao, Loris, ciao. Mi piace. Ciao, ciao, ciao. La cosa più incredibile è che tra gli articoli più letti online c'è uno che spiega il perché le statue greche hanno il pene piccolo. Cioè tu lo sai che le statue greche hanno il pene minuscolo, sì, no? Certo. Cioè nella loro rappresentazione. Perché, secondo te perché? Perché dovevi vedere delle statue, il Kaloska e Gazzos, la rappresentazione del bello e il buono, soffermarti sulle forme del corpo, no? Sui muscoli, no, sul, no, in realtà quello, no, cioè, non è per pudore o per paura di imbarazzare cioè, chi magari stava lì ad ammirare le opere d'arte. La ragione delle scarse dimensioni in realtà si riferisce al simbolo dei giovani guerrieri, cioè un pene grande poteva significare uno scarso controllo degli impulsi e l'incapacità di agire con moderazione, capito? Beh. I greci associavano il pene. Sarebbe stato un ottimo guerriero. Continui a dire che Mercuccio ha il cazzo piccolo. Guarda che è incredibile. Un ottimo grande un ottimo, imitatore della zanzara, protagonista, protagonista di molti dei nostri sì, scherzi. Assoluto. Voce però, della zanzara. Appunto con questo piccolo problema. Ma, insomma, ma non è vero, ma stai offendendo tutti. Adesso stai dicendo. Un grande combattente greco, va bene. I greci associavano il pene piccolo. E non eretto alla moderazione, una delle virtù principali del loro ideale di mascolinità. Cioè, chi ha il pene piccolo e non eretto è moderato. È moderato. Potresti essere tu che sei un moderato, David? No, io. No, ho detto io non parlo di argomenti. Allora, nel giorno che... della festa della Repubblica, nel giorno della festa della Repubblica, il nostro collegamento dalle 19:40, amici miei, è con l'avvocato Sacchi, che è il capo dei monarchici italiani. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Alessandro Sacchi, presidente Unione Monarchica Italiana, italiana. Allora, ecco. Avvocato Sacchi, ma io dico una cosa, no? Noi abbiamo un sacco di problemi, come sai, in Italia, eccetera, eccetera. Ma perché c'è gente che ha tanto tempo libero, vecchio mio? Perché tanto, troppo tempo libero. Perché uno dovrebbe tornare alla monarchia, avvocato? Perché? Ecco. Tempo libero ne abbiamo poco, amo tutte le persone che lavorano per appunto, vivere. Appunto, lei fa l'avvocato, non penso che... Quindi, ma perché dovremmo, tornare alla monarchia? Diciamo, la risposta tecnica è che abbiamo a cuore i destini della patria. Vabbè, quello tutti, però questo è scontato. Certo. Siamo gente che viaggia, che riflette, e quindi girando per l'Europa, alla portata di chiunque, abbiamo visto che nelle nazioni che sono le più belle democrazie parlamentari della terra, al vertice dello Stato non c'è un presidente, ma un re o una regina. Ma quello per nella storia, però. Cioè, noi nella storia c'entra noi poco. Dobbiamo fare un'analisi di diritto, non di storia. Però scusi, avvocato, noi ce l'abbiamo avuta. È andata come è andata male. Mettiamoci una pietra sopra. Adesso perché dovremmo tornare al re? Poi lei chi vorrebbe come re? Amedeo d'Aosta, naturalmente. Amedeo d'Aosta. Naturalmente. Naturalmente. Cioè, lei tra Amedeo d'Aosta e Mattarella, chi preferisce? Cioè, ma Amedeo un milione di volte. Cioè, lei giura. Lei è più fedele ad Amedeo che a Mattarella? Io ho giurato di rispettare la Costituzione. Vabbè, perché sono scritto a un albo professionale. Quindi però, ho giurato di rispettare la Costituzione. Però tra Amedeo e Mattarella. Bravo. Se io potessi, se mi fosse dato di scegliere, preferirei un milione di volte Amedeo. Che dubbio c'è? Un personaggio terzo, imparziale, stato ufficiale di Marina. Beh, ma che c'è terzo, imparziale? Avrà le sue idee pure Amedeo d'Aosta. Comunque, ma perché dovremmo avere Amedeo d'Aosta? Non ha mai militato. Vabbè, ma perché dovremmo vedere Amedeo di Savoia? Cioè, poi la monarchia. Il pretendente è lui, punto. No, ma ho capito. Cosa cambia con la monarchia? Questo è il cosa punto. Cosa cambia? Vede, io penso che voi viaggiate poco. Ma no, lo sappiamo che c'è in Europa noi. E Parenzo lo sappiamo più o meno che c'è in Europa, in altri paesi l'avrete del mondo. L'avrete letto da qualche parte, su qualche rivista, il treno no. Del modello. C'è anche questo. Nelle più belle democrazie parlamentari. Ma ho capito, c'è la monarchia. Ma lì non è andata male. Già dovrebbe bastare. Ma lì non è andata male come in Italia. Ma veda, il fatto che le maggiori dittature della terra sono repubblica non significa che per questo la repubblica sia il peggiore dei regimi. No, vabbè, però no. Se lei fa un parallelo fra una monarchia e una repubblica, la Siria è una repubblica, Cuba è una repubblica, ma sono repubbliche così per modo di dire, cioè sono cose messe. Sono repubbliche. Ma sì, ho capito. È una monarchia, la Svezia è una monarchia, la Norvegia è una monarchia. Come si fa a tornare alla monarchia? Come si fa a tornare? Adesso lasciamo perdere. Come si fa? Si abroga l'articolo 139 della Costituzione. Scusi, lei che voterà al referendum? Il referendum voto no. Noi siamo a favore di tutte le riforme, siamo talmente riformisti che vorremmo la monarchia. Ma la questa monarchia, riforma ragazzi. Proposta Parenzo, dal governo è una soppressione della sovranità. No, ragazzi, ma io capisco che magari alle 20 del 2 giugno qualcuno ha fatto dei pranzi bevendo un po' troppo vino. Quanti siete? Quanti siete? Cioè, l'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo. Deve appartenere anche delle scelte per l'istituzione. Scusa, ma secondo lei dicendo che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione comprime la sovranità popolare. Vabbè, e quindi poi una sovranità a mezzo servizio monarchico. Sì, vabbè. Quanti siete? Quanti siete? La mia associazione. Ma sei monarchici in Italia? Qualche milione. Siamo. Cioè, lei sta dicendo che in Italia c'è qualche milione di monarchici? Sì. Ma quando mai? Dai, leggete poco, siete poco informati. Ma lei che dice? Viva il re o viva la Repubblica? Che dice lei? Io lo dico, nel divenire viva la Repubblica. Spero per l'Italia che sia abrogato l'articolo 139 così. Vabbè, ma lei che cosa farebbe lei per un re? Cioè, per un re così morirebbe per il re o no? Cosa è disposto a fare? Guardi, le dico una cosa che le farà sudare freddo. Io non riesco a immaginare uno che sale su un patibolo e grida viva la Repubblica. Ma che vuol dire? Non riesco a immaginare un tramite che va contro una mitragliatrice urlando viva la Repubblica. Beh, ma meno male. Cioè, la storia anche ci ha detto. I nostri soldati impegnati nei non è che dicono io la Repubblica, in giro per il mondo, non è che dicono io la Repubblica, ma combattono per la Repubblica italiana. Combattono per la Repubblica, fanno altre operazioni. Come non no? Combattono per la Repubblica, cioè, sono mandati dalla Repubblica, per la Repubblica italiana. Perché se ci fosse il re che l'ultima guerra in cui si è combattuto è stata la seconda che si è persa. Ma scusi, molta gente andava al fronte urlando viva il re, avanti Savoia, era il motto. Era il ho capito, ma meno male che non c'è più avanti Savoia, meno male che non c'è più viva il re. Queste, meno male che non c'è, meno male che ma non c'è, c'è perché il re se n'è scappato dopo l'8 settembre, via, a gambe levate è andato, no. Dai. Allora, si immagini un titolo di giornale sensazionalistico, del 1943, il re di Norvegia fugge in Gran Bretagna, il re di Grecia fugge in Gran Bretagna, il re d'Italia fugge in Italia. perché Vittorio Emanuele III non è scappato all'estero, è rimasto in Italia, quindi anche questa accusa della fuga senza comandare, senza comandare. Comunque, ma c'era un governo, lasciato, comunque, c'era una monarchia costituzionale, c'era comunque, Badoglio che era il capo del governo, le pigliava Badoglio. Buono, ragazzi, questa non è una trasmissione di storia. Quello. Allora, il punto fondamentale è un altro, adesso non abbiamo bisogno però di appassionarci, in Inghilterra c'è tutta una saga su Buckingham Palace, quello che è, eccetera, ma in Italia... Dai su, c'è di nuovo Amedeo di Savoia, tutti i ma nipoti. Voi lo sapete, ma voi lo sapete che Buckingham Palace costa agli inglesi il quarto di quello che il Quirinale costa agli italiani. Vabbè, ma ho capito, ma quella è perché... Lo sapete o no? Si diminuiscano i soldi della cosa, si diminuiscano i soldi della... Purtroppo ho capito. Voglia di diminuire, ma tant'è. Vabbè, avvocato, vive il re di Spagna costa agli spagnoli la settima parte, che è quello che costa. Ma quello ce l'hanno, se lo tengono. Non vuol dire niente. Non è vero, perché l'hanno ripreso dopo 40 anni di dittatura feroce. Vabbè, ma capito. E lui li ha portati da timoniere, da arbitro terzo imbarziale nel consesso delle nazioni democratiche. Vabbè, ragazzi. Questa è la monarchia. Ci sono ancora i monarchi. Un arbitro al vertice dell'istituzione che è terzo. Se vi piacciono i uomini di parte e poi non vi lamentate. Va bene, avvocato. L'arbitro fa il tifo per una delle squadre. Questo è. Diverso sono chiacchiere. Arrivederci, avvocato. Arrivederci. Buon lavoro, viva ragazzi. Il re, viva il re. Sempre viva il re. Viva il re. Viva il re. Viva il re. Come sono le canzoni dei monarchici? Quali sono? Ce n'è un mucchio. Tipo? Tipo com'è? Beh, da quelle di Amario, dalla leggenda del Piave. Come fa? E il Piave mormorava caldo e placido. E poi c'è la canzonottistica napoletana, Passa a bandiera, vabbè, certo. Che è molto bella, molto commovente. Vabbè ragazzi, fermi tutti, restiamo qui, ci sono pure i monarchici, ciao. Non siete seri per niente. La Zanzara. Cruciani, Cruciani amico mio, sono in quelli di Passo Corese, sintonizzato su Radio 24 e a un certo punto sento il Santo Rosario, siamo braccati da Radio Maria, Cruciani, non ne posso più, in quelli di Passo Corese, provincia di Rieti. Perdonatemi, ma ho appena fatto una ricerca su Pamela Neri ed è attraente quanto il bidet di casa mia. Pamela Neri. Cruciani, noi qui a parlare di polpette avvelenate, di delitti atroci, di elezioni a Roma, ma la domanda fondamentale è: cosa cazzo voleva Pamela Neri quando ha telefonato alla Zanzara? Allora, ed effettivamente, Parenzo, è un interrogativo che mi pongo da qualche giorno, no? Cioè, io non mi interrogo sulle grandi cose dell'umanità, non faccio riflessioni pensose sull'universo mondo, sui nostri destini, eccetera, eccetera. Mi interrogo su... per quale cazzo di motivo ha chiamato Pamela Neri? Allora, la telefonata è stata questa. Pamela Neri, che qualcuno mi dice alias Pamela Menin, mi dicono fosse abbastanza conosciuta anni fa. Ha chiamato alla Zanzara l'altro giorno. Io, devo dire la verità, pur avendo una certa conoscenza di quel settore, cioè quel settore, diciamo, sexy barra porno, non avevo ben chiaro chi fosse questa Pamela Neri, no? Pamela Neri. Comunque, si è presentata in questo modo. Pamela da Milano, vai, Pamela. Pronto? Sì, dimmi Pamela, dimmi. Io sono una sexy star. Sei una sexy star, che vuol dire? Sei una cosa sexy vuol star? Dire? Sexy star, difatti in molti la confondono con la pornostar. Aspetta, aspetta, come ti chiami di cognome? Scusami, Pamela. Sono Pamela Neri, io. Sono video da sola, sono video che io faccio da sola, quindi non sono una pornostar, non faccio film con attori. Vabbè, ma ho capito, ma farei da sola, ma vabbè, d'accordo, allora... Non si chiama pornostar una che fa un video da sola. Posso fare una televendita, una televendita che è anche di un tappeto, sì. Perché io sono ancora conosciuta... come quella che mostrava le tette e il culo. Cioè, però scusami, Pamela, Pamela, io non lo so, signora. Cara signora mia, io non so il motivo per cui c'è questo ostracismo che tu dici nei tuoi confronti, da parte della o bigottismo, eccetera. Certo. Quello dipende un po' da un sacco di motivi. Dipende dalle proprie capacità, dipende dal proprio. Rimane che se io scrivo, scusi, rimane un fatto inequivocabile. Che se io scrivo il suo nome su Google non salta fuori un articolo sul sistema elettorale, né salta fuori un articolo sulle borse di Wall Street o di Francoforte. Saltano fuori teste e culi, amica mia. Ma che... come specchietto per le allodole, mettono il mio nome e cognome, poi clicchino, ci sono io. Mi rode il culo perché comunque io sono lo specchietto per le allodole. Ma non sai, Renzo, ma io non so nemmeno della tua esistenza, scusami, che lo specchietto bene, per le allodole. Ma lo sai, molti italiani lo sanno. Ma non è vero, non lo sa nessuno. Ma... non lo sa nessuno della mia esistenza. Ma detto con tutto il rispetto, lo dico con grande rispetto, ma francamente, ma francamente non lo sa nessuno. Ma in onda su tre canali tutte le sere, però. Allora, amica mia, io Pamela Neri non la conosco. Che ti devo dire? Pure il mondo. Io ripeto, vent'anni fa, ancora si ricordano? Parliamo di Rai, media. E anche vabbè, amica mia, è come dire, ci ho avuto piccole, che si ricorda? Ricordano di me e dunque non ti chiamano, ma significa, fanno... amica mia, significa che tu adesso non sai fare una mazza, che ti devo dire? Cioè, io non so fare una mazza, ma evidentemente adesso, non sai fare niente di più che di quello che facevi vent'anni fa. Ma che ne so, ma non hai messo la prova. Ma mettetemi alla prova dove, chi, ma quando? Ma come dove? Mettetemi a vendere i tappeti, Tele Lombardia! Ma chi se ne frega? Ma... questa qua è una chiamata di una persona, perché ha detto con tutto il rispetto, che dice: io sono discriminata perché non mi chiamano nelle trasmissioni. E noi la nostra risposta è: buona fortuna, cara Pamela Neri. Buona fortuna, vieni. No, vado dal sindacato, se no. Ma quale sindacato di chi? Dalla signora Camusso. Il sindacato del pornostar. No, la signora Camusso. La signora Camusso. Non lo so, potrebbe prendere specifico. Potrebbe prendere sul serio la vicenda della signora Pamela Neri. Posso fare anche i nomi. Ma quanti anni hai? Parliamo della moglie di del napoletano. Di chi è? Non la moglie? Con le tette di fuori in Rai. Ma scusatemi, che... La moglie di? Anna Tatangelo. Un nome? Ma chi se ne frega? Ma di cosa parli? Di cosa stai parlando? Ma parlo della discriminazione che fanno. Ma allora, quale discriminazione? Tette e culo, ho lavorato con Maurizio Paradiso. E vabbè, ognuno ha lavorato con Maurizio Paradiso. Io l'adoro. E allora, ma se hai lavorato... Ma si è lavorato con Maurizio Paradiso. Ho capito, ma Maurizio Paradiso non è il rettore della LUIS. Adesso. Capito. Ma cosa c'entra? Adesso passiamo di paragoni stupidi. Questo è come, come il faraone nero. Paperissima Sprint. Ma chi è questa che fa film porno Paperissima Sprint? Chi fa i film porno e fa Paperissima Sprint? Scusate. Eva Enger ha fatto. Vabbè, ma Eva Enger, Eva Enger! Eva Enger, Eva Enger! Ma Eva Enger, Eva Enger! È stata la moglie di Schicchi! È stata la moglie di Schicchi! Una roba incredibile, guarda. Cioè, ma Pamela, è incredibile veramente. Pamela Neri. Ma siamo in Italia. No, ma signora. Bisogna andare avanti, non a regredire, bisogna progredire. That's the way I want my rock and roll. Pronto? Pamela? Chi è? È il sindacato, buonasera. Come, scusa? Il sindacato. Chi è il sindacato? È il sindacato attori. Il sindacato delle pornostar. Ah, ok, dimmi. Volevamo venirti incontro, abbiamo sentito la telefonata l'altro giorno lì. Ah, ciao, sì, ho capito, ma sto capendo adesso della zanzara. Sì, sì, sì, sì. Sì. Volevamo venirti incontro per un aiuto. Guarda, l'aiuto, io ho fatto questa telefonata perché loro dicevano ti rodo il culo perché? Perché comunque io sono stata tagliata fuori per una cosa che comunque, cioè, sì. Parliamoci chiaro, se io vado alla polizia postale, sì. Tutti quei link, io ho fatto porno, sì. Poi clicchi e ci sono delle ragazze americane, certo, strane, certo. Ed è come dire, come si dice, lo specchietto per le allodole, sì, ok? Sì. E questo non va bene, perché sì. A mio discapito... Ma noi non abbiamo capito, noi del sindacato, cosa volevi esattamente con quella telefonata? Sì. Io con quella telefonata volevo solo far capire che, perché loro dicevano si vede che tu non sei portata a far niente, si vede che tu non sei capace, io ho detto ma nessuno mi ha messo la prova. Sì. Cioè, a me piacerebbe. No, no, questo infatti, aspetta. Sì? Dicevi, scusa? A me piacerebbe fare una cosa, a me piacerebbe qualcuno mi desse una prova, ok? Visto che io non ho, a parte non sono una delinquente, sì. Di porno non ho fatto niente, ho fatto un video amatoriale 25 anni fa, tipo sì. Belen, una storia sì, così, sì, no? Sì, sì, quindi sì, uno sì. Può andare alla ricerca per 3 anni, certo, non troverà certo. Mai niente di me di porno, no? Sì, sì. Quindi io vorrei solamente sì. Capire perché tante, tantissime altre, porno sì. Star, eccetera, sì. Fanno programmi, parliamo che anche Cicciolina è andata a Parlamento, ma e io tu con no, Cicciolina... E tu no, dici. Ma io non voglio andare a Parlamento. Adesso che fai? Come ti guadagni da vivere? Beh, non ho nulla, adesso io faccio fotografie, ho sempre fatto foto, sempre fatto la fotomodella, però il mio sogno è sempre stata la TV. Sì, beh, a me certo, piacerebbe certo. Anche vedere sì. Dallo spillo al prosciutto andare in Tele Lombardia oppure in Tele Caricatì sì. E fare anche delle semplici telecritiche. Aspetta che ti passo il funzionario sì. Il funzionario De Franceschi un attimo solo, il funzionario De Franceschi che si occupa di tutte queste cose economiche, di aiuti economici eccetera eccetera, un attimo aspetta. Sì, pronto De Franceschi, buonasera. Ma voi lavorate anche oggi? Buonasera. Il 2 giugno si lavora sempre per tutelare i diritti dei lavoratori e soprattutto degli esclusi. Sì, allora ci ha colpito molto e anche amareggiato la sua storia. E noi le manderemo a casa subito intanto la tessera di iscrizione al nostro sindacato, la tessera assolutamente gratuita il primo anno, poi dal secondo sono 20 euro se vuole. Adesso faremo subito una causa alla RAI, intanto, alla RAI. Per grave esclusione del suo talento. Ci autorizza? Ma io a questa telefonata non è che ci credo molto. Pronto? Io a questa telefonata non ci credo molto. Sono De Franceschi del sindacato degli esclusi. Sì, ho capito. Ma dove vogliamo arrivare poi? Sì. Dove arriviamo con... No, noi facciamo spesso cause valide erga omnes in cui mettiamo insieme diverse categorie di persone che ci segnalano storie disagiate di esclusione dal lavoro. Discriminazione. E facciamo delle discriminazioni, chiaro, e facciamo delle azioni cosiddette collettive, come le chiamiamo in diritto, azioni collettive di risarcimento del danno. Ma quindi no, lei non deve tirare... Io dovrei avere risarcimento di tanti anni. Perché certo. Adesso l'obiettivo nostro è quello di riuscire a provare a integrarla subito in un luogo di lavoro, in una televisione, in base al suo talento e assieme ad altri colleghi che come lei sono stati storicamente esclusi, facciamo un'azione che si chiama azione collettiva. Ma voi avete sentito la chiamata che io ho avuto? Io personalmente no, il dirigente che mi ha passato l'appunto, adesso glielo ripasso, è quello che mi ha segnalato il terribile accaduto. Glielo ripasso subito. Perché il signore lì toglie aspetti, aspetti in linea, aspetti in linea. Le ripasso The Crookies. Aspetti un attimo. The Crook. Sì, ecco, ha parlato con l'amico? Sì, no, io dicevo solo una cosa. Sì. Che il coglione che mi ha risposto al telefono ha detto che non mi conosce, che io sono nulla, che non sa chi sono. Quello è un coglione. Però il programma che io ho fatto nel 94 lo conosceva molto bene, invece. Siccome io ho fatto 5 sì. Anni di programma lì, tutte le sere, quindi... Che programma era, scusa? È solo un bugiardo, un falso. Sì. Poi quando gli chiedo Eva Enger, fa poverissima, mi fa ma Eva Enger? Sì, Eva Enger ha fatto 100 film porno, però. Sì, ma quello è un coglione, sa. No, vabbè, lui voleva. Allora, poi ho ricevuto molti messaggi di solidarietà da parte dei miei fan che mi hanno detto: Pamela, hai ragione tu al 100%. Sì. Quindi io penso che arriveranno anche a loro, perché a un certo punto mi hanno preso il telefono in faccia. Ma quelli sono dei poveracci, sono dei poveracci. Sì, vabbè, hanno voluto proprio. Io non lo conosco, non so neanche chi sia come la Neri. Poi sono andati a vedere su internet e ovviamente ci sono tutti questi link che io dovrò far vedere certo, dalla polizia postale, perché comunque non è giusto che la gente è sulle mie spalle. Ma questo qua com'è che si chiama il conduttore di quella trasmissione? Allora, cazzo, non mi ricordo, anch'io. Parenzi? No. Basta andare su Google, no? No, Cru, quell'altro come si chiama? Cru, non mi ricordo. Se aspetta... Cruciani. Sì, Cruciani. Cruciani o Cruciani? No, Cruciani. Con la N? Cruciani, sì. Sì, Cruciani. Sì, bisognerebbe fare qualcosa. È un coglione, eh? È un coglione. Vabbè, ma lui offende tutti, ma quella trasmissione lì penso che, voglio dire, non ci sia poco da denunciare o fare querele o cosa. Ma no, querelare, no, no, no. no, querelare. Appunto. Ma no, no, querelare, no. Che c'è? Però ci ha detto, vuol dire che lei non sa fare niente. Lei ha studiato, poi parlavano della lui. Ma quello, sa, quello... Attaccano delle cazzate veramente assurde. Ma quello... Detto, ma a me qualcuno non mi ha dato la possibilità di fare qualcosa. Ma quello... Allora, mettiamo la prova. Lei deve, lei deve capire che quello là, se non mi ricordo male, Cruciali, Cruciani, così, eccetera, è stato definito da più tribunali della Repubblica un vero pezzo di merda. Cioè, da più tribunali della Repubblica. Stiamo parlando di questo. È stato definito da più tribunali della Repubblica un pezzo di sì, merda. Sì, certo. In modo molto chiaro, evidente, scritto, nero su bianco, un pezzo di merda. Poi è un malato di merda. È un malato, è un disturbato. Ma sì, vabbè, lui provoca, provoca, poi c'ha la spalla lì che Parenzi, com'è che si chiama quest'altro Parenzio? Parenzo? Sì, Parenzi, sì, una cosa del Parenzi, genere. Comunque è stata... Comunque, vabbè, io capisco la sua situazione, è tutto chiaro, la ricontateremo al più presto, va bene? Grazie, arrivederci, arrivederci. Pezzo di merda! Flavio da Milano, vai Flavio, Flavio. Eccoci qua. Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, Flavio. Ciao, ciao. Dimmi, dai. Gotham City è in pericolo. Non ho capito, che cos'è in pericolo? Gotham City è in pericolo. Gotham City è in pericolo, bene, arriviamo anche voi, a Gotham City, perché? Voi eravate i miei miti, voi eravate Batman e Robin. Cioè sì, invece che siamo diventati adesso. Invece Robin prende il sopravvento su Batman, perché in questo caso ho uno scoop da dire alla Zanzara. Qual è lo scoop? Avanti, avanti. Lo scoop è avanti che con la cazzata, avanti. Lorenzo passa per, come dire, il finocchietto della situazione. Veramente non è così. Per... Guardate, voi insistete su questa cosa. Ogni tanto qualcuno mi incrocia e dice: ma Parenzo è frocio? Io dico: ma guardate, di che ma state parlando? Che sono molto più frocesco io, cioè di Parenzo, ve lo posso assicurare. Ho molto più tendenze omosessuali io, che non ce le ho, sì, ma nella mia mente ho più perversioni omosessuali io piuttosto pulsioni, di Parenzo. Sì, no, bravo, pulsioni, certo. Non esagerare. Beh, pulsioni omosessuali, sì, comunque sì, si no, può dire. No, pulsioni no, diciamo, come dire, fantasie. Fantasie omosessuali piuttosto che Parenzo. Invece Parenzo secondo me alla fine è anche un po' omofobo, cioè i froci gli fanno schifo, cioè la realtà è questa. Non, no, sì, schifo, ti fanno no, schifo, ti fanno schifo, sì, Parenzo, no, ti fanno schifo, schifo, ti fanno schifo, ti fanno schifo, no, se ti, schifo sì, se uno ti corteggia, no. Se uno ti corteggia tu sei quasi, cioè sei ma schifato, succede, sì è così, ma no, sei imbarazzato. Io che sono cresciuto in mezzo agli omosessuali e ho amici da tanto tempo, ma non solo amici, ho dormito insieme ad omosessuali, eccetera eccetera. Sì, no, ma no, certo, no, sono andato più confusa, ma va bene, ma non è vero, sono andato alla Mucca Assassina quando, no, ragazzi, io sono andato alla prima edizione della Mucca Assassina quando era accanto al Vaticano, pieno di froci, ma sì, era fatto apposta per i froci, però ti voglio segnare, andavo alla Mucca Assassina a Roma e quando era accanto al Vaticano, accanto al Vaticano, grande cosa, certo, di libertà, accanto, ottimo, al Vaticano, a un cinema lì, era un cinema che un giorno a settimana c'era la Mucca Assassina, per cui sono abituato, però ti assicuro che non è così, cioè Parenzo no, ma... è molto più etero di me. No, infatti voglio dirti una roba. Non sembrerebbe, roba, perché magari uno può capito, qualche volta un atteggiamento un po' dandy, diciamo, no? E allora uno dice, uno confonde questo atteggiamento dandy con la froceria, ma non c'entra un cazzo la froceria, certo, dai. Ma lui, se uno ascolta il suo accento un po' altezzoso, comunque è molto acculturato, vabbè, per allora... cui utilizza dei termini di un certo modo, magari la gente, quella perché, ecco, più campagnola, lo stereotipo che i froci sono acculturati, capito? Vabbè, allora? Esattamente, stupidamente. Ma che vuoi dire? Qual è il suo scoop? Non ho capito. Comunque ci tengo a precisare una roba, che questa è una trasmissione etero gay friendly, quindi voi non siete contro nessuno, soltanto contro i vegani. Io non sono contro nessuno in generale, sono in generale, qui infatti, sì, in generale. Ci sono idee, però, basta, dai, dove vuoi arrivare, Flavio, dai, su. Ti dico, no, infatti ci arrivo subito. Arrivaci, sono passati 3 minuti, dai. Allora, no, voglio dire una roba. Io sono stato a letto con una ragazza che è stato a letto anche con te. Questo qua. Registriamo questa cosa qua. Esatto, lei è una caporedattrice di una rivista che a me, tra l'altro, fa anche cagare. Perché, ma non lo so, una roba del genere. Non so, sono stato con troppa gente, non mi ricordo. Come dicevo, mio amico, mi sono dimenticato chi mi sono scopato. Cioè, un mio amico sosteneva questa cosa qua, che si può applicare anche a me. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Mi sono scordato. Mi sono dimenticato, ogni tanto mi scordo. La totale ineleganza di questo signore, come si chiama sto veramente banco, l'ho detto io stavolta, il nome, scusa, di battesimo. L'ho detto io stavolta questa la totale ineleganza. Ma a te non è mai successo di incrociare una e di porti la domanda, ma questa camera sono scopata? Dici o no? A me? Non ti è mai successo a te? Ah, dici passeggio Piazza del Popolo? No, incontri una che conosci, che conosci, magari insieme agli altri amici, no? Ciao, come stai? Eccetera, eccetera. E poi ti poni, ma questa qua me la sono scopata? No, non mi ricordo. Non ti è successo? No, no, non è in genere una cosa che mi capita. A me è successo. Questo succede. Cioè, non mi ricordo. Purtroppo. Gli animali, probabilmente. No, gli animali che c'entra. Vabbè, Flavio, arriviamo alla conclusione di questo racconto. Questo cagnolino ha avuto un perché questo è un dubbio che potrebbe assalire adesso un po' di gente, no? Vabbè, sei stato con una con cui sono stato io, dunque? Con questa ragazza fuori di testa, completamente fuori di testa, che si chiama Nadia, ok, ci tengo a precisare, Nadia è un nome inventato, ragazzi, ma non si fanno i nomi così, dai, su, Nadia, ma lei è un millantatore. Dai, su, non si... Aspetta, lo posso giurare. Ma Flavio, non posso... Ma ho capito, ma io non posso adesso mettermi a discutere, a parte che io non mi ricordo... Ma no, l'importante è essere elegante. Ma io non mi ricordo una persona con cui sono. Non si fa. Allora, non mi ricordo. Fermo lì, aspetta che c'è la pubblicità, interruzione e cose varie. Flavio, resta lì perché devo veramente risolvere questo arcano. Non è possibile che tu adesso metti in mezzo una persona. In questo momento non mi ricordo di chi si sta parlando. Dunque, facciamo finta che sia un nome inventato. Non aggiungere cognomi, eccetera, sennò ti sbatto il telefono in faccia e ti mando a fare in culo. A me la zanzara non mi piace, mi eccita. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it. Vi presenta La Zanzara. Scusa Cruciani, come fai a dire che il titolo di libro è un titolo giusto, Arrostiti? Ma se il libro ci fosse stato ai tempi di Hitler e dei poveri ebrei, cosa avrebbe scritto? Arrostiti milioni di ebrei? Ma che cazzo stai a dire? Al signor Carlo Alvino vorrei chiedere, da quale territorio provengono il 90% delle banconote contraffatte al mondo? Indovina un po'? Vi do un indizio, non è Bergamo. Mamma mia, Cruciani, questi c'hanno veramente la faccia come il culo. Ma è un continuo di gente che butta fazzoletti, sigarette, cartacce dai finestrini delle macchine. Ma come si fa? Allora riprendiamo questo lungo discorso con Flavio da Milano, che ci stava raccontando che è stato con una ragazza che è stata anche con me. Va bene, crediamoci. Dunque, questo è un onore. Vabbè, ma no, ma che onore, dai, non dire stronzate, forza, dai. Qual è la conclusione, perché di questo racconto? Allora, il perché di questo racconto è che fondamentalmente, cioè, Parenzo passa sempre per quello meno l'abbiamo già detto. Dunque, ma in realtà questa ragazza qua mi ha detto: ah, perché io lavoro in una roba qui, insomma, ho detto io guarda, a me piace tantissimo la radio fatta da Cruciani e Parenzo, perché sì, vabbè, dunque per fortuna non è la sola, dunque non è la sola, esatto, però qua in questo caso la sola sei te, perché lei ha detto che è stata con te, ma ha avuto a che fare con una micropenia allarmante, no? La micropenia, cui, sì. Micropenia, quindi. Sì, ma Flavio, io mi sa che può darsi anche che faccio coming out, poi in realtà non è che bisogna fare coming out. Mancava questo. Cioè, potrei fare coming out, mancava. Effettivamente ho un micropene. Cioè, adesso Flavio, cioè, è evidente che questa qua è una stronzata pazzesca che ti stai inventando. Ma perché dovrebbe essere una stronzata? Scusa, nel momento in cui uno ti viene incontro in un difetto fisico, cioè c'è da dire se è vero o non è vero. Io semplicemente ho avuto a che fare con questa ragazza che è stata a letto che sarebbe stata con me, ovviamente, che dice che io sono affetto da micropenia. Giusto. Che ha detto è una persona, figuriamoci, non ci si annoia mai, è una persona molto acculturata. No, veramente ci si annoia, tutte cose sbagliate, perché in realtà ci non si annoia. Paga la cena, ma ha detto che non paga la cena. In realtà è tutto sbagliato, perché la cena la pago. Ci si annoia moltissimo, e non sono acculturato. Cioè, è così, cioè, questo è un coming out invece. Dunque è evidente che non è vera questa cosa qua, ma comunque lasciamo perdere. Fosse vera, qual è il punto? Allora fosse vera. Perché sei razzista nei confronti di quelli che hanno i micropene? Ma figuriamoci. Allora, cioè, sei razzista. Ma per me è meglio, perché mi si apre un campo, capisci? Cioè, è come quando vai in una festa gay friendly, sono tutti gay, sono un sacco di, c'è un sacco di figa, ovviamente tutti becchi. Vabbè, figa, ma dai, su Flavio, che stronzata è, dai. Io ho visto una volta, tempo fa, a Roma c'era un ragazzo, non posso dire il nome, che aveva sempre delle ragazze bellissime, stava sempre con delle ragazze bellissime. A un certo punto ne incontro una, la quale mi ha detto: ma lo sai che come viene soprannominato questo qua? Il Pinolo. Il Pinolo. Beh, siamo al top. Pinolo? Ragazzi, il Pinolo. Il Pinolo. Siamo al Pinolo top. Perché gli piacevano i Perché, amico mio, le dimensioni erano... lo so, ma guarda che è veramente imbarazzante il Pinolo. Ci vuole un intervento del professor Bossi qui. Il Pinolo. Detto il Pinolo. Frank, Frank! Ciao, buonasera ragazzi, tutto bene? Come andiamo, Frank? Tutto bene, voi come state? Saluto tutti. Brava, tutti. Bravo, saluti tutti, saluta a tutti gli ascoltatori, Radio 24, la Zanzara, eccetera, eccetera. Frank è un gigolò. Perché qual è il problema? Frank con la C, con la C. Frank il gigolò adesso. Sì, non è Frank Sinatra, cioè non è Frank, esploriamo altri meandri della normalità. Beh, assolutamente, perché non ho capito, vendere le donne possono sotto vendere il loro corpo, forse. Gli uomini non possono vendere il loro corpo, non ho capito. No, non c'è dubbio, sotto Frank gigolo, con la C. Frank con la C. Tu devi sapere che quanti anni hai, Frank? Io 33. 33, di dove sei? Io di Avezzano, paese vicino a Avezzano. Vicino a Avezzano, tutti abruzzesi siete voi che praticate il che sesso, dolore eccetera. Provoca ma i suoi genitori, hai le stesse, ma perché dolore che provoca i genitori? I tuoi genitori che sanno che fai gigolò? Provoca? No, non sanno niente. Ecco, no, com'è possibile? No, come questo, come non sanno niente, questo dimostra la non normalità del lavoro. Ma che sanno? Non ho capito, che il tuo mestiere lo conoscono, sanno che vai a trombà per guadagnare o no? Sì, lo sanno, sì che lo sanno, sennò che alla fine sì, ma per me è un mestiere normale. Lo so, ma infatti anche secondo me per loro... è normale. Alza un po' la voce se non si sente. Sì, anche certo. Ma certo che è normale, scusa Frank, è uno che fa un mestiere normale, come gli altri. È normale, normale, ha messo d'accordo. Anche dei manifesti a Milano, a Milano Nord, no? Dove li hai messi questi manifesti? Sì, su Palma Nova, su Loreto. Allora, come Efe Bal, diciamo, no? Praticamente come Efe che vuole la legalizzazione del centro. Ma lui non gliene frega niente della legalizzazione della prostituzione. Io vorrei una cosa così, diciamo, che io posso pagare le tasse. Ah, tu lo vuoi, tu dici che quant'è che guadagni tu all'anno? Io? Più o meno, di la verità, non mi distronzate. 20.000 euro l'anno. E che ci fai con 20.000 euro l'anno? Oh. Beh, poco. Vabbè. Tutto è nero, dici? No, vabbè, 2.000 euro al mese. Poi che fai di altro? Sì, 1.800 euro al mese, 1.500. Calcola, se c'erano le tasse io sui 20.000 euro dovevo versare 4.500 euro, più o meno. Sì, è vero, eccetera. Ma non ho capito, 20.000 euro l'anno e poi farai altri lavori, non è che puoi campare con 20.000 euro l'anno, immagino, a Milano. E vabbè, sì, diciamo che vabbè, io mi sto buttando al 100% su questo lavoro, capito? Ho capito. Poi, cioè, speri di aumentare il lavoro. Scusa, ma quante prestazioni fai più o meno? Ma a settimana? Sì, a settimana, certo, a settimana. E dipende, io faccio i tour di 2 giorni, di 3 giorni. Anche in crociera ho letto da qualche parte, no? Sì, allora io faccio anche il servizio in crociera. Che vuol dire? Che cos'è il servizio in crociera? Bello questo. Che servizio è in crociera? Cosa vuol dire servizio in crociera? Il servizio in crociera vuol dire che io praticamente la donna vuole andare in crociera. Mi dice il programma che vuole lei. E poi sì? Diciamo lei prenota la crociera e io. Ma il programma di che tipo? Il programma sessuale? No, il programma che prevede la crociera, se lei per dire vuole 15 giorni, vuole una settimana, vuole un mese, quello che è. Ma, il programma sessuale, quello è un'altra cosa, quello che mi dice la donna io faccio. Tutto, fai di tutto. Sì, vabbè, io diciamo che vado anche con donne e con coppie. Donne e coppie, no, uomini no, naturalmente. Non ecco. No, uomini no. E l'età più o meno media qual è dei tuoi clienti, delle donne? Beh, alta immagino. 40, 45, 50. Il massimo che hai fatto quando è stato? 60 l'hai fatto? No, 60 no, metti 55. 55, così. Tu 33, vabbè, ci può stare. Senti, ma quanto prendi più o meno allora la tariffa qual è? La tariffa, io, vabbè, per la crociera prendo 200 euro al giorno, giustamente tutto pagato. Tutto pagato più 200 euro al giorno, diciamo. Sì. Fa un pacchetto invece, sostanzialmente, un pacchetto sì. Vacanze, diciamo. Sì, e invece per le cose private prendo in coppia 200 euro. Sì. E solo la donna 150 l'ora. L'ora, sì. Capito Parenzo? 150 all'ora, 200 invece la coppia, certo. Sempre, tutto all'ora viene calcolato. Cosa vuol dire la coppia? Cioè c'è una coppia? Una coppia, donna e uomo, c'è una coppia, coppia, una coppia che chiede, dicono... le prestazioni, chiede le prestazioni di Frank, con la, immagino con la moglie, no, con la compagna, no? Immagino. Eh sì, c'è anche chi mi chiede di fare i massaggi tantrici, certo. Quelle cose là. Ma l'uomo che fa? Guarda in questi casi, che fa l'uomo? L'uomo guarda, normale, dai. L'uomo guarda e io magari faccio i messaggi. Sì, l'uomo guarda e quell'altro fa i comodi con la moglie, ma è normale, dai. Ma no, può succedere che uno paghi per queste cose qua. Va bene, mi avete convinto che è normale, Dai, non mi innervosisco oggi, non voglio innervosirmi perché ho la pressione alta, il medico ha detto di non... Ma hai una borsa dentro dove hai i tuoi attrezzi del mestiere o no? Cioè ti porti dietro gli attrezzi del mestiere? E come un idraulico arriva lì? Un idraulico arriva lì? Di borse ce n'ho due, una per le singole e una per la coppia. E che c'è dentro sta borsa? Figurati. La donna singola vuole più coccole, capite? Che ci sono? Tipo candele a forma di cuore, petali di rosa, tutte queste cose. Che sono? Petali rosa. Candeline a forma di cuore. Vabbè, sono vibratori, da quali candeline? Sono vibratori, dai, su, diciamo la verità. O no? Vabbè, c'è pure qualche vibratore per la donna wireless. Ma è normale, Parenzo, è una cosa normalissima. Sì, ma certo. Aspetta. La sua valigetta, chi è? Sono il signor Gigolò. Apre la sua borsa degli attrezzi. Sì, sì. In genere nella borsa degli attrezzi ci sono cose per giustare la casa, se è un elettricista o un falegname. E in quel caso lì c'è il normalissimo vibratore con 4 velocità, 5 velocità. Ci sono le catene per legarsi ed è tutto normale. Va bene, andiamo avanti, dai. Pubblicità. Avanti. Ma siete due somari, andate a casa, andate a lavorare, barboni. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presento La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Luciani, informati come mai le donne scelgono sempre di più la minchia nera. Sono tornata da una corsa e sono tutte insieme a neri, marocchini e... insomma, va la minchia nera. Fatevene una ragione. Allora, la minchia nera è più grossa, è più resistente e poi non si addormenta la sera quando tu gli sei di fianco a letto. Questo è. Messaggi inquietanti che arrivano nella segreteria telefonica, caro Parenzo. È un'ascoltatrice. Sono basito da... Beh, ho capito, è un'ascoltatrice che ha la sua idea su quello che piace alle donne oggi, eccetera, eccetera. Non è nemmeno una grande novità. Siamo in collegamento con un nostro, come dire, no, editorialista, no, perché non è che possiamo far diventare tutti editorialisti. Ecco, meno male. Ma meno con male, un protagonista della vita sessuale di oggi. Un protagonista importante, direi, perché fa un mestiere che rende felici molte donne che ne hanno bisogno. Si chiama Frank. Frank Gigolò ha messo dei cartelli anche a Milano. Senti Frank, ma perché le donne dovrebbero venire con te? Spiegami, cioè, qual è la tua caratteristica principale? Scusami, tu fai di tutto naturalmente, no? Ho letto che fai anche sadomaso, giochi strani, eccetera, eccetera. Quanto ti chiedono? Che giochi ti chiedono i più estremi? Quali sono? Vabbè, la donna viene con me perché io alla fine faccio bene i massaggi ioni, praticamente sempre sul tantrico con l'olio... Vabbè, però ci sono un sacco di massaggiatori, amico mio. Se una donna vuole massaggio, va a farsi massaggiare. Scusami. Sì, però diciamo che vuole anche coccole, vuole... Che vuole? Vuole coccole, vuole queste cose qua. Ma vorrà fa sesso? Quanto ce l'hai? Quanto è dotato? Quanto sei dotato, amico mio? Sarà 17. Ma 17, vabbè, è normale allora. Cioè, non stai parlando di cose, non stai parlando di... Stiamo parlando in una trasmissione radiofonica delle dimensioni del pene di un gigolò, certo. Che fa passare per normale andare a casa della gente con una borsa degli attrezzi. Allora, io, per carità di Dio, sono un bacchettone, ma non reputo normale che un signore chiami alla radio dicendo di avere una sberletta. Ma anzi, sberla di che? 17? Ecco, peggio, ma che? Appunto un pinolo di 17. No, pinolo no, pinolo e arriva no. Con la cassetta degli attrezzi vabbè, e che fa legare le persone, l'olio. Ma ci rendiamo conto? Ma sono strano io, guarda, ormai. Io no, non, ma sono non cose che appartengono al mondo della normalità. Al mondo della normalità. Diglielo tu, Frank, che non lo capisce, David. No, sì, cioè, Frank, se non ci fossero persone che chiedono Frank. I servigi di Frank, lui ne sarebbe con meno 20.000 euro. Queste persone sarebbero meno felici. Alla fine è un do ut des, cioè la realtà è questa. Ci sarebbero persone meno felici e Frank meno ricco, diciamo, dove dovrebbe procurarsi il lavoro in un altro modo. Però la storia dei 17 centimetri non mi torna tanto. Cioè, tu hai delle altre caratteristiche, evidentemente. Non lo so, sei particolarmente bravo. Perché altrimenti 17 centimetri, amico mio, sì, va bene, per carità. Siamo alla normalità, ecco. Cioè, normalità, sì, diciamo. Però, diciamo, per fare, diciamo, io il 60% delle donne le faccio venire con i massaggi, capito? Quello le fai? Le fai? Le faccio venire con i massaggi. Solo col massaggio? Solo col massaggio? Poi quello viene dopo, capito? Cioè tu fai venire le donne solo con... dove le fai venire? Fai venire no, a casa, no, fai venire a casa, fai venire in senso, come dire, sessuale. Non avevo capito. Beh sì, non avevo capito, scusate. Solamente con il massaggio, ho capito, vabbè, comunque. L'orgasmo, no? Eh sì, l'orgasmo è una cosa normale. Parenzo non lo vuole nominare perché gli sembra una bestemmia. A lui sembra una bestemmia dire la parola orgasmo. La realtà è questa, che chiamasi orgasmo. E signor Frank ha questa caratteristica, quella di far arrivare al cosiddetto orgasmo delle donne che frequenta dal punto di vista lavorativo con il massaggio tantrico. Si può scaricare un'app sui telefonini, non lo so, come Uber, c'è un'app come per i taxi? No, ancora non siamo arrivati all'app, potrebbe essere un'evoluzione del mondo escort al maschile. Ottimo. Però, potrebbe essere un'evoluzione. Quanto prima bisogna avvisarla lei per coinvolgerla a casa? Quante ore prima? La gente, a chi si deve rivolgere? Un numero di telefono, a chi deve mandare un messaggio? Se ci fosse qualche donna... Un giorno prima magari mi chiama un messaggio oppure mi chiamano. E tu comunque ti fidi, vai ovunque, ti fidi oppure hai bisogno poi di vedere le foto prima, eccetera? Oh, vabbè, ma alla fine sì, diciamo che il messaggino poi mi manda la foto e io vado, capito? Ma vai anche all'estero? Eh sì, sì, io sono stato a Parigi, sono stato a fare un tour. Un tour. Dove? Vasco Rossi fa il tour, non tu. Vasco Rossi. Lo Gigolò fa il tour. Dai, ma certo, ragazzi, il tour. Dove sei stato a fare sto tour? Fa il tour. Di 4 giorni, 5 giorni si chiama tour. È certo che si chiama tour. Sì, appunto, ma dov'è sto tour? Dove vai? Ah, sono stato, a Parigi. Poi, poi? Sono stato 4 giorni e poi sono stato 5 giorni in Romania. In Romania, ma roba di arabi no? Arabos? Arabi, adesso c'è cioè, il mio, diciamo, io lo chiamo così. Cioè come? Il mio manager. Ah, c'è il manager, Parenzo. Il manager che fa? Pure la gente c'è. È il manager. Il marketing manager che ti fa pubblicità dove? Il manager c'è. Nei paesi arabi. Io sto puntando nei paesi arabi. Marketing manager. È il magnaccia. Russia. Il magnaccia, no, marketing manager. Il magnaccia. Ma non è il magnaccia, è il manager. Che è il magnaccia? No, il magnaccia. Chiamalo magnaccia. Il marketing manager. Il marketing manager. Vai dalle prostitute sulla strada e dici: scusi, come sta il vostro marketing manager? Dice: guarda, fratello, questo è sfruttatore di magnaccia. Ma non è un magnaccia, dai. Fa male. Dai, manager, il marketing manager adesso. Sta cercando altri, come dire, altri mercati, giusto, Frank? Altri mercati, di aggredire altri mercati. Altri mercati, roba di economia, d'altra parte è Radio 24, Radio della Confindustria. E stiamo parlando di penetrazione in un mercato. Cioè, capito che ho messo insieme? Di penetrazione in un mercato. Basta, mi pare. Ciao Frank, ciao, arrivederci. Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Piero Pavia. Piero, vai, Piero. Ciao Cruciani. Dimmi. Senti, volevo intervenire alla trasmissione per riguardo la Celentano e chiedimi se sono felice con la trasmissione di Radio 24 che fanno la domenica. Vai, dimmi. Senti, tutta la trasmissione degli animalati. Tutti i gatti, tutte le gatte che ci sono nelle case, che sono diversi milioni, sono tutti castrati, perché sennò il gatto pisce in casa e la gatta miagola quando va in calore. Quindi, se sono così coerenti gli animalati, dovrebbero castrarsi anche loro, perché chiedi se sei felice il loro gatto castrato, che glielo chiedi. È una domanda che si potrebbe fare effettivamente. Chiedilo alla voi che avete i gatti in casa, castrati. Diciamo, castrati. Chiedeteli se è felice il vostro gatto. E sei felice anche il marito che magari magari i veri animalisti, o i veri animalati non provaglielo a chiedere. Non castrano i gatti, magari non li castrano, li lasciano pascolare. Ci sono milioni di gatti nelle case e i cavalli. Che gli stalloni li castrano perché sennò non possono andare nelle passeggiate. E allora? Chiedi se sono felice anche quei cavalli lì. Giusto. Bisogna chiedere tutte queste cose. No, è giusto, la domanda è giusta. Va bene, Giuseppe, Padova. Sì, dimmi. Dimmi. Senti, ma no, perché mandi a fanculo solo me quando saluto e gli altri che salutano non li mandi a fanculo invece? Ma quando è che ti ho mandato a fanculo? Quando avevo detto che le donne italiane vanno, cioè che le italiane grasse vanno in marocchine. No, scusa, amico mio, quello era un messaggio che è arrivato. Dai, Giuseppe, dimmi, forza. No, ho telefonato, vabbè, non fa niente. Comunque, volevo chiedere a David una cosa. David? Sì, chi è lei? Dai, su, David. Conosciamo, come si chiama lei? No, ci conosciamo noi, siamo solo di stessa città, di Padova. Vai, Giuseppe, però. Ma chi era quella lì che ha telefonato da Vicenza, che parlava ai carabinieri, non li riconosco? Lores. Una matta indipendentista. Ma quella lì, se si trovasse nelle condizioni di aver bisogno d'aiuto, cosa fa? Che numero compone sul cellulare quella lì? Non lo so. Non lo so, quello dei carabinieri probabilmente, sì, certo. Vabbè, era solo per capire. Vabbè, comunque, dai, poi, Giuseppe, forza, dai. No, un attimo solo. Volevo dire una roba sulla circoncisione. Che vuoi dire sulla circoncisione? È morto un bambino... Sì, lo sappiamo, ne abbiamo parlato, dunque? No, perché io volevo chiedere a Davide una cosa. Lui diceva che la circoncisione veniva fatta in alcuni paesi dell'Africa per la prevenzione dell'organizzazione mondiale della sanità. Vabbè, non ripetiamo sempre le stesse cose. Giuseppe, dai, forza. No, ok, dico, allora, questi genitori qua, no? Che cazzo di diritto avevano di toccare l'organo di questo bambino che anche è morto? Cioè, vuol dire, visto che tanto siamo in Italia, quindi problemi da quel punto di vista non ce ne sono. No, allora quelli hanno praticato la circoncisione in casa, cioè non in ospedale. Vabbè, Giuseppe, ciao. Donato Varese. Pronto, ciao Giuseppe. Ah, ecco, Donato, dimmi. Niente, io, tu sai, come sempre, io vorrei dire un mare di cose che non mi è impossibile dirle, però io adesso voglio fare una richiesta ufficiale, voglio parlare con l'Italia, soprattutto con Papa Bergoglio. Cioè, in che senso, scusa, spiegami. Vorrei parlare con Papa Bergoglio, siccome che Gesù Cristo parlava con gli ultimi, no? Sì. Papa Bergoglio, essendo un suo sedicente rappresentante, dovrebbe essere quantomeno, dovrebbe parlare almeno con i sottoultimi. Sì. Quindi io vorrei parlare con Papa, tu dovrei fare da mediatore, io voglio parlare con Papa Bergoglio, ma non sto scherzando, lui deve spiegare a me perché si è messo in testa di islamizzare l'Italia. Beh, adesso mi sembra un po' grossa questa cosa. Il Papa vuole... Papa Bergoglio mi deve spiegare a me, che sono un cristiano, perché vuole islamizzare l'Italia. Perché l'Italia dopo 4.000 anni deve essere islamizzata? Qualcuno mi deve dare una risposta. Perché la matematica purtroppo non è mai stata un'opinione. Vorrei sapere da Papa Bergoglio, con rispetto che ho per quest'uomo, pur non trovandomi alcuna cosa, nessuna affinità con quest'uomo, mi deve spiegare, io sono un cristiano con la C maiuscola e sono fiero di essere cristiano, lui mi deve spiegare perché vuole islamizzare l'Italia, perché vuole portare qui i nostri nemici, tra parentesi, millenari, a radicarsi in questo suolo. Vorrei sapere perché Papa Bergoglio vuole islamizzare l'Italia. Io non ce l'ho con gli islamici, ma siccome che la nostra storia ci ha insegnato che i cristiani con gli islamici si sono sempre scannati, non so per quale motivo non dovremmo scannarci adesso, io voglio salvaguardare i figli di questo maiale che hai a fianco, i nipoti, voglio salvaguardare i tuoi figli, Cruciani, voglio salvaguardare i miei figli, i miei nipoti, qualora li avrò, voglio salvaguardare la mia gente. Come si fa a parlare col Papa? Spiegami, Donato. Voglio parlare col Papa, deve parlare con me, mica può entrare il Vaticano, soltanto una persona potente. Lui deve parlare con un sottultimo, io sono un sottultimo, deve parlare con me, mi deve spiegare perché vuole far entrare gli Islam in Italia, me lo deve spiegare puntino per puntino, perché noi cristiani non c'è nessun rappresentante, nessun califfato che fa entrare centinaia di migliaia di islamici in Europa. Perché noi veniamo tutti. Allora, quelli che salgono sulle barche, no? Quello sporco immondizzaio che sta cadendo sul canale di Sicilia, i nostri nipoti, se riusciranno a sopravvivere, dovranno capire chi sono stati colpevoli. Quel Porco maledetto di Renzi, che muoia anche stanotte! Deve fermare quel terremoto! Quel terremoto deve essere fermato! Io per la strada voglio vedere i cristiani! Io sono qua un cristiano da 100.000 generazioni! Voglio vedere i cristiani! Con tutto il rispetto dell'Islam! L'Islam deve andare fuori da questo continente! Se non vogliamo vedere sangue! Sangue infinito! Questo porco maledetto che è a fianco, dagli un calcio sotto i coglioni, schiacciagli i cimiteri, rompagli quelle popoli, poi ci strada per le Allora, voglio parlare con Luciano. È complesso, Luciano. Donato, scusa. Aspetta, David. Permettimi il contatto con questo Papa. Adesso, francamente, adesso tu che io che faccio da mediatore tra te e il Papa, mi sembra. Certo, perché il Papa a me dovrebbe ascoltarmi. Dovrebbe ascoltare e non mettersi a baciare i piedi ai musulmani. Dovrebbe ascoltare, perché io non ho visto nessun imam, nessun rappresentante della chiesa islamica che si abbassi e si metta a lavare i piedi a un cristiano. Semmai si abbassa per vedere un pochettino i nervi come sono fluidi, per tagliargli le gambe. D'accordo? Però scusami, io voglio parlare col con Papa, il Papa. Col Papa, io domani ancora faccio una confusione alla Madonna, ti telefono e voglio parlare con il Papa, e il Papa davanti all'Italia deve spiegare a me perché vuole islamizzare questo paese. D'accordo? Io domani ce la fa ancora, che mi venga a prendere la polizia. Io da sotto umano, un subumano vuole parlare con il Papa. No, però scusa, tu faresti meglio, Donato, a organizzare a questo punto una specie di flash mob, come si dice, oppure di sotto il Vaticano direttamente. Ecco, suggerisci altre cose, certo. No. Io voglio parlare con lui al telefono. Bene, così, ma al telefono. Non deve venire al telefono. Non deve andare al telefono a quel cornuto di Pannella bello e buono. Perché c'è tra Pannella? Allora, Pannella era un anticristo. Era un anticristo. Ma non mi interessa un cazzo se è morto. È morto. Ha avuto una vita meravigliosa, ha commesso un sacco di peccati, ha fatto morire più di, se non almeno più, 20 milioni di bambini. No, ma come ha fatto morire 20 milioni di bambini? 20 milioni di bambini! Ma con che cosa? Con l'aborto, dici? Sì, perché se le ragazze allora fossero state un pochettino più umane ad uccidere il proprio bambino che viene in grembo. Pannella cosa fa? Ha legalizzato. Perché se lo Stato dice sì, potete abortire, ecco perché siamo a nascita sotto zero. Scusami, perché quel porco di Pannella, il porco di, ma è morto ormai, è morto. Ma il porco di Pannella ha commesso un gravissimo errore. Lui è quell'altra stronza della Bonini. Bonino. Senti, ma io voglio capire una cosa, ma giusto per chiudere, ma il giusto per chiudere, quando hai cambiato le pillole? Giusto per capire, quando le hai cambiate proprio? Perché il passaggio da un farmaco all'altro, evidentemente. Allora, dimmi Giuseppe. No, lui sta dicendo una cosa palesso adesso. Sta dicendo una cosa palesso. Ma lascialo stare questi, devo stare questo qui. Ma questa è un'esasperazione del niente. Questa è una merda telecomandata. Lascialo stare lì. Ma che cazzo serve? Mi scriva su nero su bianco che cazzo serve sto stronzo che è lì in radio. Dai, ma che cazzo serve? A martorizzare l'Italia? A uccidere gli italiani? Conosci Monsignor Galantino? Perché indirettamente li sta uccidendo. Conosci Monsignor Galantino? Questo stronzo che affianca indirettamente ammazza gli italiani. Indirettamente adesso ammazzi gli italiani. Adesso mi sembra esagerato. Vabbè, allora facciamo un appello finale al Papa. 10 secondi, 30 secondi, Donato. Un appello finale al Papa. 30 secondi. Caro Papa. Sì. Caro Papa, tu che dici di essere il rappresentante di Cristo, che non sei nemmeno degno di nominare nemmeno la C? Sì. Nemmeno la C. Prima cosa, il Dio non lo devi chiamare titolo. L'Islam a me il suo Dio lo chiama Allah. Ma i cristiani credo che conoscono bene il nome. Veloce. Deve, prima cosa, deve chiamare Dio col proprio nome. Poi non deve accomunarsi con l'Islam. Perché l'Islam, quando prenderà più forte, devi spiegare le prime giugulari che taglieranno sono proprio le sue, se sarà ancora in vita. Le giugulari, a domani. Radio 24. La passione si sente.